Oh, che bello, amici di Runtime, buonasera, ben trovati a questa che potrebbe essere l'ultimissima diretta, non soltanto della storia di oggi di OGM, oltranzisti gastricamente maleducati, e non soltanto della storia di Runtime, la radio geek, ma di tutta la radiofonia, di tutto il podcast del mondo di sempre. Il perché ce lo spiegherà il nostro esperto geopolitica, strategia di guerra cibernetica globale, nonché farmare, Marco Gualdi. Ma io non sono preparato, cioè io ero preparato per la fine del mondo dei Maya. Ma quello di quello parliamo dopo, allora facciamo così, ce lo facciamo facciamo così. È sempre un fine del mondo questo. Allora facciamo così, ce lo facciamo spiegare dal nostro esperto di geopolitica, strategia di guerra cibernetica globale, farmare, Carmine Puccio Console. Ci si capisce più un cazzo, ragazzi, non ci si capisce più niente. Basta. Perché guarda, cioè, il problema era questo, che allora, parliamo francamente di Polonia. Cioè, la Polonia. Di Polonio, sì. Di Polonia. Polonia, quella che... Però scusa, a questo punto, perdonami, perché già che voi non me lo sapete spiegare e riassumere in due parole, ce lo spiegherà il nostro esperto di geopolitica, strategia di guerra cibernetica globale e farmare, Lobby Frontali. Il problema è che finché vogliamo applicare uno schema rigido alle cose e prevedere delle conseguenze a questo schema, non capiremo mai un cazzo. Bisogna accettare il fatto che tutto succede in modo piuttosto random e caos, caos. La teoria del però caos. Scusate, no, rigido, cazzo, troppe allusioni sessuali qua, cazzo, abbiamo iniziato due minuti, Buonasera, ragazzi. Buonasera, bentrovati a questa appunto puntata un po' particolare che potrebbe essere l'anello di congiunzione tra noi e la fine del mondo, nonché appunto, chi può dirlo, cosa potrebbe succedere? Perché insomma questa è stata una settimana, quella precedente ovviamente, oggi è lunedì, per chi ci ascolta in diretta, però insomma quella da cui veniamo è una settimana stranissima tra Corea del Nord che vuole rompere tutti i ponti con la Corea del Sud, gente che invade involontariamente i confini altrui, vabbè, Trump che dà di matto, insomma, da par suo non aggiungeremo nuovamente insomma questo elemento. Che altro dimentico? C'è stato qualcos'altro di strano? Vabbè, è la potenziale fine del mondo che diremo dopo, insomma, ne abbiamo tante, no? Cioè, avevo anche troppe, aggiungerei. Sì, infatti basta, cioè che tutta sta roba. Io siamo solo a giugno, ragazzi. Quando c'è tante cose da dire non sai dove cominciare, vorresti dire basta. Basta, cioè. No, cioè l'ultima l'abbiamo scoperta 10 minuti fa con una senatrice degli Stati Uniti che ha definito il Movimento 5 Stelle il Partito Comunista Italiano. E insiste, sta continuando, continuando. No, le stanno postando articoli con Grillo che dice sarei contento se vincesse Trump perché è un candidato di rottura. No, sono il nuovo Partito Comunista. Chissà cos'è che l'ha fatta decidere per questa cosa, vabbè. Vabbè, sono americani, quelli vedono comunisti pure nelle uova e bacon. Non solo Berlinguer, ma io dico Marx e Lenin si stanno rivoltando nella tomba. Cioè non... Sì, sì, ma un po' tutti. Io dalla tomba l'ho sentito bestemmiare il buon Enrico Berlinguer, vi giuro, si è scoperchiato il marmo, perché veramente va bene tutto, però a un certo punto, insomma, un po' di coscienza, un minimo di documentazione, cavolo. Non dico che devi sapere di cosa parli, ma almeno documentati, però vabbè. Ragazzi, comunque veramente, cioè, cerchiamo di buttarla sulla cazzarella oggi, perché altrimenti con tutto quello che sta succedendo qua non ne usciamo vivi, ma non in senso metaforico. Però permettetemi di salutare chi ci ha già raggiunto in chat e ci sta facendo compagnia: Peppe Rizzard, Leo Vargion, Giuseppe Pugliese e tutti quelli che pavidamente si celano e non lo ammetteranno mai. E fanno bene. Ah sì, anch'io non lo direi mai di ascoltare sto programma, sinceramente, ma io perché stesso, facendolo mi tocca dirlo per forza. Io giro che lo faccio, quindi figuriamoci. Se vada poi. Ma comunque io, tornando al tema principale, che è questa fine di nuovo, ancora questa fine del mondo che si sta avvicinando in qualche modo, non sappiamo come, forse in una delle tante cose che si stanno veramente manifestando negli ultimi mesi, che non sarà assolutamente per Covid, quello proprio è l'ultimo dei nostri problemi, secondo me. La cosa più strana che è successa, tranne che a Milano, scorsa, è stata a Milano, quelli sono poverini, vabbè. È successo che un paese della NATO ha invaso un paese della NATO. E questa è un paese che non è abituato a invadere quanto a essere invaso. Invaso. Esatto. Un paese della NATO ha invaso un altro paese della NATO. No, un altro paese. Detto, proviamo l'ebbrezza dell'invasione. dall'altra parte, però. Dall'altra parte, infatti. Come gli etero che ogni tanto decidono di provare ad andare con un uomo o con una donna. Esatto, proviamo, vediamo che cosa succede. Allora, che cosa è successo? Che praticamente la Polonia ha messo un piedino dall'altra parte del confine con la Repubblica Ceca, senza però di niente. Così, davvero. Cioè, praticamente, cioè, vediamo che succede, appunto. Vediamo che succede. Quindi hanno blindato tutto quanto, sono arrivati i mezzi corazzati, tutti con le divise ovviamente polacche, tra l'altro erano tutti quanti giovani miliziani relativamente filo governativi fascisti di destra, diciamo, e che praticamente hanno provato queste grandi manovre in territorio straniero dicendo che si erano sbagliati alla fine. Cioè, scusate, volevamo vedere se ve ne accorgevate. Questa volevamo vedere se stavate attenti. Esatto, tra l'altro cacciando in malo modo i ciechi, che ovviamente essendo ciechi non vedevano bene che stava succedendo, e venivano cacciati in malo modo. Poi hanno deciso di sbaraccare tutto e allora ve ne siete accorti, e da come se l'avete capito? E ancora stanno aspettando la risposta della Polonia. Ed è stato bellissimo, però il problema è, secondo voi, la Polonia, no? Dopo che ha fatto sta mossa, cioè di invadere la Repubblica Ceca, perché è tornata indietro? Secondo voi, perché, io deduco, penso, non avesse abbastanza carabinieri? No, perché credevano fosse la Kamchatka, ma poi si sono resi conto che avevano sbagliato con la bussola, non sono andati a nord, sono andati a ovest. Questi trattini, loro sono partiti ai trattini pensando di andare all'altra parte, invece hanno... Però secondo me, se avessero continuato ad attaccare, avrebbero vinto. Perché ma sai, lì tutto dipende dal dato, però permettermi di dirlo. Stanno altrove, tutti armati, cioè se fai un fumble 4-1 con 4 dadi, hai voglia, puoi avere tutti i cararmatini che vuoi. Cioè, esatto. Che poi sono cose che ricordiamo. La dimensione aleatoria che. E poi in caso di pareggio vince sempre il difensore, quindi. Sì. Ricordiamo che per la scienza, diciamo, il calcolo probabilistico, il tiro di dado più frequente su un dado da a 6 facce è il 4, ma in realtà sappiamo tutti che quando poi giochi è 1. Sì, vabbè. Quindi... vabbè. No, tra l'altro, però, 4. Marco, fammi dire una cosa: noi stiamo qui a preoccuparci della Polonia che invade la Repubblica Ceca. Io posso solo immaginare una contaminazione di fregna, perché scusatemi se sono così brutale, ma insomma, tra le due popolazioni ne può uscire solo un ibrido spettacolare, ecco. Io non credo. Mi hai appena ricordato che uno dei miei migliori amici ci ha presentato una ragazza metà giapponese e metà brasiliana. Che spettacolo. Beh, ora faccio una battuta che invece non è per connotazione fisica, però a proposito di Brasile e di, tra virgolette, relativa vicinanza geografica col Giappone, io ho un'amica brasiliana che si chiama Sayonara, e quando la prima volta che l'ho, insomma, ho reagito così la prima volta che mi ha detto che si chiamava Sayonara, però poi mi hanno spiegato, insomma, che in quel periodo, pensate, che abbiamo a che fare con molti brasiliani anche per motivi di lavoro, perché avevamo aperto una sede in Brasile a un certo punto. Sì, dicono tutti. Questo. No, questa è bellissima. Mi scrive negli stessi giorni in cui c'era appunto questa conoscenza con la moglie di un amico che si chiama Sayonara. Ci fu anche l'email di una persona che lavorava nella sede brasiliana dell'azienda, che si chiamava Teresa Fukusawa. Dico, no, mi state prendendo per il culo. Dov'è la telecamera? Perché veramente tutti questi brasiliani con questi nomi giapponesi. Comunque, vabbè. È un po' come Antonio Inoki, la stessa cosa. Esatto, vabbè, ma Fukusawa in Brasile. Comunque, vabbè, volevo invece dire, Marco, che tu ci racconti queste cronache appunto della Polonia e della Repubblica Ceca, ma in realtà io non mi preoccuperei tanto di quello. Io solo una cosa non ho capito, però. Non ho capito solo una cosa, cioè di che colore erano i cararmatini della Polonia? Io questo non ho capito. Rossi, credo, no? Vodka, color vodka. Non credo rossi, guarda. Cerco di leggere il nome del partito, il partito sovranista, quello che è Famiglia e Libertà. Spravedli Vosk, ci sono riuscito. Sì, sembra una vodka davvero. No, però scusatemi, ragazzi, diciamo un attimo di serietà in questa riflessione. Nel frattempo, un report della NATO ci dice che in un anno i caccia della NATO hanno intercettato per 290 volte i caccia russi che sconfinavano nel territorio NATO, ecco, nel Mar Baltico in particolare. Ora, mi sembra leggermente più preoccupante rispetto all'esercitazione polacca. In realtà non lo è, perché vabbè, noi in Puglia abbiamo la base di Gioia del Colle della NATO. Sì. La storia degli aerei russi che sconfinano più o meno ce la raccontano i militari della base di Gioia dagli anni 90, da prima forse ancora che crollasse il muro, e in realtà pare che seriamente non lo facciano apposta. E che pare che sono proprio rincoglioni, scusate, loro, cioè è un errore che fanno frequentemente da decenni. Perché non sanno tenere la destra, praticamente. Non ho idea, probabilmente sì. Però questa cosa... Non sanno girare a destra, come Zulander. Sì, sì. Cioè, io ho avuto un parente che per molti anni, buonanima, è stato uomo radar da quelle parti, e ce lo raccontava. Diceva, mediamente una volta alla settimana c'è un MiG che sfora. All'inizio pensavano che fosse, come posso dire, come fare il tassello un melone, cioè quando si incazzano, però la cosa è diventata, era talmente insignificante e talmente ripetuta che a un certo punto hanno smesso di percepirla come una minaccia. Come una minaccia. Così comincia, quindi, così, poi dopo un po' si arriva che praticamente ti fanno la capitale sotto il culo non te ne rendi conto, cioè, e all'improvviso paghi in rubli, esatto, cioè, che è successo? Niente. Ok, a posto, ma funziona sempre. Gloria Rostovska, Gloria Rostovska. Ma guarda, piuttosto che tornare alla lira carta da culo, così quasi accettare il rublo, poi lo sai, alla fine Vabbè, e che purtroppo la Russia non è più madre Russia che potremmo in qualche modo idealizzare noi, che insomma ci abbiamo quel ricordo, se ci fosse Michela in chat anche lei sospirerebbe, no? In realtà adesso la Russia è a tutti gli effetti un paese che tutto si può definire meno che sovietico in senso storico e tantomeno comunista, quindi insomma, boh. Visto che si preparano anche delle elezioni per votare... Che sì, la possibilità di altri due mandati, sì, altri due mandati, la possibilità, cioè potrebbe, così da che il nostro carissimo Vladimir possa stare in carica almeno fino al 2034, ma io sono sicuro che riuscirà ad andare anche più avanti, tra l'altro facendo anche delle lotterie, cioè diciamo si sta proprio comprando, possiamo dire, i voti in maniera spudoratissima ormai, ma una cosa che già usato in passato, è una cosa molto simile, cioè, sicuramente uno, cioè il più fesso ha copiato dal più furbo, ma mi ricorda anche un pochino un certo Vinci Salvini, non vi suona qualcosa? No, però aspetta, c'è una bella differenza, nel senso che Putin se vince la lotteria ti regala l'iPhone, Salvini se vince la lotteria ti scrocca la cena, un po' come un Gualdi qualunque. Sì, esatto. Lì ti regala macchine, ti regala iPhone, chi ha vinto? Cioè io volevo sapere chi ha vinto il Vinci Salvini. E che cosa ha vinto? Cioè, no, la cosa era Vinci Salvini, perché tu vincevi una sera a cena con Salvini. Cioè, Salvini era il premio, quindi voglio dire. Ah, lui era il premio, che bello. Sì. Beh, lo sai che però io ci avrei partecipato. Capito, col male peggio però. Insieme, però. Cioè, vieni a cena in campagna da me, che stavo scavando una buca per l'occasione. No, cioè, era quasi da fare, insomma. Vabbè, pazienza, la prossima volta parteciperemo numerosi, insomma. Bello. A proposito di Salvini, che si è reso protagonista di questo geniale exploit al programma di Floris, no? Che gli contestano in un video il fatto che mentre parlava in piazza a Roma si era tolto la mascherina, e lui cadendo dal numero con questo sguardo perso, beh, che c'è? Non mi posso togliere la mascherina mentre parlo con una signora? Sgrana gli occhi, Floris, che a quel punto veramente ti senti quasi preso per il culo, perché insomma nella sua posizione certe cose non le dovrebbe non solo diciamo ignorare, ma non le dovrebbe neanche dire, e gli sgrana gli occhi e gli dice, beh, se stai a meno di un metro e mezzo no, e lui risponde, ah, non posso? Cioè veramente, ragazzi, un siparietto da vergogna. Non è peggio, non sono peggio le promesse che non mantenute dal governo. Beh, certo, perché buttiamo l'ancaciara in qualche modo, no? E le emozioni che c'è in testa. Casaccio, sì, ragazzi, è già tanto che non abbia risposto, e allora i marò. Esatto. Però diciamo che se Salvini, ragazzi miei, se Salvini diciamo che se lui in qualche modo incarnasse il lombardo medio, mi spiego tante cose del perché. Non so se avete letto, a Milano in Lombardia c'è ancora questo brutto problemuccio del fatto che c'è un rapporto di quasi il 4%, 3,9 praticamente dei tamponi positivi su ogni 100, quindi di fatto ogni 100 tamponi fatti 4 sono positivi. Allora, il numero... alleghismo? O al COVID? Alleghismo o al COVID? No, alleghismo temo di più, al COVID. E la situazione è veramente brutta, perché anche oggi pure per leghismo l'80% dei contagi in Italia è in Lombardia, anche veramente rossa, cioè rossa con leghista dentro, è bellissimo, è fantastico. Comunque io stamattina ho visto uno scontro tra titani, ragazzi, ad Agora su R3 c'era Garavaglia, leghista, e Toni Inelli, che è bellissimo, è fantastico. E c'era la presentatrice, hanno resuscitato la presentatrice, già la terza o quarta volta, infatti si vede che lui vuole tornare in auge, e la Bortoni gli faceva le domande, e proprio cintura nera e decimo dan di evasione, tutte e due, fantastico. Alla domanda a Garavaglia: ma se esce questo vaccino e lo rendono obbligatorio, per voi cioè è un problema, visto che Salvini diceva che l'obbligatorietà dei vaccini non doveva esserlo? Esatto, quando gli daranno pieni poteri. Questo bisogna vedere, perché non è automatico, bisogna vedere com'è il vaccino, come funziona, se funziona, se non funziona, che cosa c'è dentro, come va, mica posso dirglielo sesso. Scarpa, esatto, così. Cioè, ma che cazzo significa? Cioè, un vaccino o è obbligatorio e va bene, o è obbligatorio e non ti va bene. Non è che diciamo poi vediamo se funziona o non funziona, cioè il vaccino deve funzionare, se no non viene messo sul mercato. Cioè, oppure aspetti dopo 2 o 3 anni che è uscito e poi diciamo forse funziona, facciamolo. Cioè, ma che cazzo? Cioè, veramente. E Toninelli invece su sempre sulla stessa cosa, cioè potete immaginare che cacchio ha detto. Tipo, poi vediamo, perché adesso piove, però non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più i mezzi vaccini, queste cose qua. I mezzi vaccini. Cioè, ma terribili, persone veramente terribili, guarda, cioè terribili, che non vogliono dire sì o no, non perché magari loro non hanno una convinzione che sia sì. No, è per non prendere una posizione. Per non prendere una posizione, perché sennò poi la gente non li vota. Ma stessa cosa, Salvini. Vabbè, un Toninelli non lo voti lo stesso, per dire, cioè. Ma neanche prima è stato votato, purtroppo ce l'hanno buttato in mezzo. Quella sì, è grave. Ma il problema grave è che queste persone non rappresentano un'eccezione, rappresentano la regola. Eh sì. Comunque, tornando un attimo alla questione delle invasioni maldestre, secondo Giuseppe Pugliese in chat, nel 2020 sentire qualcuno che sbaglia direzione sono, come dire, puttanate, per usare un termine tecnico. Dice: ci hanno provato, si sono accorti che sarebbe scoppiato un casino maledetto, hanno addotto che era tutto uno sbaglio. Ma in realtà ci hanno provato in che senso? Cioè, metti un piedino oltre confine, dopo? Cosa stavi provando a fare? Homer Simpson che saltella da una parte all'altra della frontiera. Usa. Scusate, mi avete ricordato tantissimo la fondazione dello Stato di Pretoria nei Griffi. Bellissimo. La roba del genere. Tra l'altro l'altra sera su Italia 1 hanno fatto lo speciale. Gay vicino all'aeroporto. Non potevi. No, ma in tutto questo nessuno ha ipotizzato che i polacchi stessero semplicemente cercando di disertare perché in Repubblica Ceca c'era la vodka migliore. Cioè, non lo so, perché secondo me loro volevano fare lo scherzetto in Germania e hanno sbagliato. Cioè, vendichiamoci dopo 80 anni, vendichiamoci. Oh, cazzo. Questa è Repubblica Ceca, torniamo indietro, ma oramai siamo sgamati, oramai ci tengono sotto controllo. Vabbè, dove andare così, fratelli, dai, hanno sfondato tutto. Fratelli, dove andare così? Ricordiamoci, insomma, che è l'altra ipotesi, che invece che utilizzare il GPS mondiale abbiano usato il GLONASS, che non funziona proprio benissimo, che non prende benissimo, e che quindi abbiano sbagliato direzione. Non so di cosa stai parlando. No, allora, tu hai due reti satellitari principali, il GPS, che è un consorzio mondiale, però detto chiaramente a guida Stati Uniti, americana, è una piazza di loro. Il concorrente di GPS è stato sviluppato dalla Russia e si chiama GLONASS. Ha un certo numero di satelliti, meno del sistema GPR sicuramente, e tendenzialmente funziona una merda. Questo comporta che se invece che agganciarti al GPS ti aggancia a GLONASS, non hai lo stesso livello di accuratezza del navigatore satellitare, che non sarà quello che hanno usato. Quindi se si erano poggiati a GLONASS e hanno sbagliato di qualche chilometro, può capitare, quindi... Sì, però quando uno ti parla in una lingua che non conosci, ecco, quindi è spiegato anche i MIG che sbordano, che sbagliano, sì, ecco qua, ecco tutto, ecco, si spiega tutto, dai abbiamo risolto anche questo problema. C'è sempre che il problema è che se capito in un posto e parlo una lingua straniera, una domanda ti viene fatta: ma perché questi parlano una lingua che io non capisco? Marco, dipende, se sei molto ubriaco, dopo un po' tutti parlano una lingua straniera e cerchi di farci amicizia. Quindi... Esatto, ma sembra un po' la storia di quello che vede un sacco di gente in autostrada arrivare contro mano, però. Bravo. Che questa scusa, secondo me, con i polacchi non funziona. Cioè, come l'impressione che fossero sobri e sapessero benissimo quello che stavano facendo. Non comunque, ragazzi, a proposito di GPS per l'angolino del nerd, ricordiamo che esiste anche un terzo sistema che si chiama Galileo, che i moderni cellulari cominciano già a supportare, che è praticamente la risposta europea a GPS, che da un punto di vista diciamo come dire teorico ha un grado di precisione maggiore, perché utilizza diciamo metodologie più moderne rispetto al GPS, che è una tecnologia di ormai 30 anni fa, ma che però diciamo non è ancora totalmente operativo, perché il numero di satelliti in orbita non era ancora diciamo sufficiente. Tant'è che erano 60 che a un certo punto si potevano vedere quando li hanno lanciati. Vabbè, mi ricordo. Tra l'altro mi avevano proposto di andare a lavorare come diciamo neanche sistemista è troppo, perché si trattava di fare diciamo bassa manutenzione al sito di backup diciamo del controllo a terra di Galileo, che è praticamente nel Fucino, soltanto che mi sarei dovuto trasferire nel Giappone nel Fucino, sì, nel Fukuoka, nel Fujiyama, esatto, no, praticamente in pieno Abruzzo, ma nel niente, praticamente a adesso non ricordo bene il nome del paese, del comune, comunque è famoso, è in provincia dell'Aquila, se non ricordo male, sta proprio circondato da campi di patate, insomma lì c'è il sito di backup, l'originale, il sito principale, se non ricordo male, sta in Germania, e Telespazio gestisce il sito di backup lì nel pieno dell'Abruzzo. Però vabbè, poi rifiutai perché dell'Abruzzo. Era un lavoro che non permetteva crescita, cioè iniziavi, entravi, facevi quello tutto proceduralizzato a manuale, e quello avresti fatto per tutta la tua vita lì nel niente abruzzese, come cinese, insomma. Come cinese. Cioè in Abruzzo, esatto. Sapete, fare i rosticini, però dai. Sì, no, per carità, quello sì, però insomma... E quando arriva una certa diventi tu la rosticina. Sai, la Marsica è bella, però quando poi... La zona era Vezzano, ecco, mi è venuto in mente, no. Però insomma, quando poi cominci a fare a botte con gli orsi perché si deve mangiare la rosticina, magari ci ripensi. Avezzano, comune italiano, 42.000, beh, manco pochi, 42.000 abitanti. No, però sai quei paesini un po' nell'entroterra dove la vita sociale praticamente sfiora lo zero, e dove facevi casa e bottega, ma veramente casa e bottega, perché se non hai amici sul posto, bottega, casa bottega, suicidio. Più o meno, sì. Tant'è che un mio amico che invece accettò la proposta, dopo 4 mesi di teledimissioni e tornò a Roma, quindi insomma... Vabbè, ragazzi, invece, no, perché siccome le cose assurde non finiscono mai, perché veramente questa potrebbe essere la puntata della follia, però abbiamo una potenziale buona notizia. Io lo dico, prendiamola col beneficio del dubbio, perché si stanno facendo degli accertamenti astronomici, astrologici, astrolabici, non lo so neanch'io, però sembrerebbe... Attenzione, che da un'attenta rilettura del calendario Maya, la famosa fine del mondo che abbiamo schivato non era il 21 dicembre 2012, bensì il 21 giugno 2020. Dai che vicino, dai che vicino. Sì, perché praticamente avevano scazzato quel calendario gregoriano, non lo so, tutti delle calcolazioni particolari, ma qualcuno di voi forse se l'è studiata meglio sta cosa, mi sono concentrato più su altre cose. Io intanto saluto Stefano e Pier G che ci hanno raggiunto in chat, buonasera ragazzi. E sì, diciamo che per me quello che conta è, come dire, quagliare, perché prima a inizio puntata Carmine diceva siamo già a giugno. In realtà, se pensi che a marzo quest'anno ci sembrava talmente assurdo e talmente, come dire, tragico da non vedere la fine, il fatto che siamo già a giugno è positivo, vuol dire che ci siamo messi un brutto periodaccio alle spalle, no? Però visto che vogliamo evitare questa recrudescenza del Covid, eccetera, io direi siamo tutti favorevoli alla fine del mondo, no? Alzate le mani, è favorevole. Sì, a mano in alto, sì. Però mi stavo facendo una domanda, no? Leggendo l'articolo dice la prossima settimana ci arriviamo? Questo dipenderà molto da certi capi di governo, mi viene da dire, no? dato quello che accade in Asia e anche un po' altrove, io ho tutta questa, tutto questo ottimismo, questa fiducia, tutto questo ottimismo. Arriviamo alla prossima settimana. Per esempio, come mai a un certo punto è partita la ciabatta alla Corea del Nord che ha ricominciato a punzecchiare la Corea del Sud? Hanno qualcosina di pronto nel seminterrato di casa di Kim? No, sì, la nuova stagione di Adrian, la serie. Oh, mamma, è morto Kim, ragazzi. Oh, l'hanno fatta in Corea del Nord, che cazzo volete? Quelli si sono risentiti che non abbiamo ordinato la seconda stagione, quindi e beh, ragazzi, sarebbero anche, cioè, avrebbero anche tutte le ragioni, vista come dire la cifra stilistica e tecnica di quel capolavoro, non ordinare almeno la seconda e la terza stagione è vergognoso. Ci abbiamo finanziato la dittatura, vabbè, tutto sommato, chi non lo fa almeno una volta? No, uno dei treni di Kim Jong-un, che non so se sapete, si sposta solo in treno perché dice che gli dà fastidio volare. Sì, cioè, sì, gli dà fastidio privata. Quello che può succedere mentre vola. Sì, vedi, per tipo che Gheddafi, per esempio, che tentarono di buttarlo giù. Ti dirò anche, ti dirò che anche in treno alle volte stranamente si appisola un attimo dopo pranzo e si ritrova a Pechino, cioè anche quelle sono cose strane. Sì. Tu non lo sai, ma in questo momento c'è un gruppo di coreani che sta prolungando uno snodo della ferrovia di Pyongyang in direzione Pechino. Può anche arrivarci da un momento all'altro. Gli abbiamo pagato almeno un treno con Adrian, secondo me. Almeno la carrozza ristorante gliel'abbiamo pagata noi. Ah, che belle cose. C'è sempre la sorella che, secondo me, adesso in questo momento lo mantiene in vita quel tanto che basta. Dallo sguardo la sorella è veramente cattiva. No, e tra l'altro è single, ragazzi, la sorella è single. Se volete proprio, io avrei paura, penso che qualunque uomo della terra avrebbe paura di avere una relazione con lei. Ti sbagli una volta in qualunque cosa, parli come se potessi opporti a quello. Non sei tu che decidi di avere una relazione con lei. Ah, tu dici che lei arriva e trova il suo partito, dice lui e se lo lui, esatto. Tipo mantide religiosa. Sì, sì. Tra l'altro, Marco, sopravvivere più tempo possibile. Marco, faccio questa domanda espressamente a te perché gli altri non credo che abbiano modo di fare questo paragone. Ma la signora sorella di Kim Jong, che non mi ricordo mai come si chiama, non assomiglia un po' a Jessica? Aspetta, io non so che non ce l'ho presente. Vado a cercare Jessica con l'H, chi è? Scusatemi, ragazzi. Allora, no, Jessica senza H, Jessica Chen, è la proprietaria del Kotugi, il ristorante sushi dove più rinomato della nostra zona, e lei è a tutti gli effetti una ragazza cinese, una donna cinese, ormai lei è nata in acque internazionali al largo del Portogallo, quindi neanche cinese si può definire, però insomma, quando noi l'abbiamo conosciuta tanti anni fa, vedi sta bella ragazza cinese, come ti chiami? Jessica, te fa un po' strano, capito? Poi ci ha spiegato tutta abbastanza la sua storia, però. No, non è neanche una brutta ragazza la sorella di Kim, se non fosse che la sorella di Kim è molto austera, però rispetto al fratello sì, è anche insomma, vabbè, sono tutti austeri lì, cioè, se tu metti qualcosa di meno austero sei ucciso, quindi Ciccio Bombo non è austero, Ciccio Bombo è Ciccio Bomboso, insomma, cioè, messo sempre di nero col collettino, il capello brutto, insomma, dai. I capelli molto alla moda ufficiale. Guarda, io credo che Kim Jong sia l'unico legittimato ad usare la brillantina Simmons in tutta la Corea del Nord. Gli altri devono avere la scodella istituzionale. Esatto. Aspetta, che vi mando in qualche modo, forse in chat, la versione. Non so, lo fa di nuovo. No, cerco io, così fate anche voi il paragone, purtroppo non in chat pubblica. No, ma non è carino, insomma, no, certo. No, però insomma, vabbè, ragazzi, altra storia, questa è proprio di oggi, quindi andiamo all'attualità più spinta. Un cos'è, un quotidiano di, diciamo, spagnolo di estrazione, come dire, Carmine, ABC si chiama. Vabbè, ABC, che è l'equivalente spagnolo, di cosa, ragazzi, in Italia? È il Libero, okay. Spagnolo. Il Libero Spagnolo, quindi vi potete fare un'idea. Tira fuori questo scuppone secondo cui, tra l'altro, il giornalista oggi ha ribadito di avere ulteriori prove che probabilmente ci mostrerà o probabilmente no, però secondo questa inchiesta di questo giornale spagnolo, il Venezuela nel 2010, se non era 2009, quando ancora il Movimento 5 Stelle era diciamo alla sua nascita, ai suoi albori, avrebbe finanziato il partito, il movimento, pardon, di Casaleggio Senior all'epoca con 3 milioni di dollari, ricordo bene? Sì. Di euro, sì. Di euro, però in realtà 3 milioni e mezzo di euro, sì, quindi all'epoca dovrebbero andare lisci. Vabbè, al di là del fatto che lo sta, è come se lo dicesse Belpietro o Feltri, quindi prendete questa cosa con grossissimo beneficio di inventario. C'è un'analisi abbastanza interessante fatta su alcuni giornali sul fatto che non corrispondono i bolli che sono applicati sul documento, che i timbri che sono stati applicati non sono più, non erano in uso già nel 2010, quindi è difficile datarli in quel periodo, che sostanzialmente, al di là di quello che sta dicendo il giornalista, non esiste nessun tipo di conferma. Boh, io l'idea che questa sia una roba tipo Pizzagate me la sono anche un pelino fatta. Poi, oh, per carità, stiamo parlando di tantissimo tempo fa, innanzitutto, probabilmente quando Di Battista ancora viaggiava per il mondo sui carghi battenti bandiera liberiana, però, boh. Comunque attenzione, perché leggevo che il giornalista che ribadisce di avere le ulteriori prove, che pubblicherà, o meglio, che dice di avere ulteriori prove, non so se le pubblicherà, è un giornalista che ha pubblicato su ABC, però in realtà di fatto è un giornalista freelance, quindi attenzione, a maggior ragione. No, per carità, ma allora senti. No, nel senso che, come dire, la solidità dell'inchiesta viene meno momento dopo momento, ecco. No, ma per carità, questo è come noi ci avevamo in zona un giornalista di un giornale locale che raccontava che aveva le foto di D'Alema a cena a Gallipoli con il boss della Sacra Corona Unita. In realtà questo poi faceva l'impiegato alle ferrovie locali. Che cazzo gli devi dire? Cioè, se c'è le prove, non aspetti, non le tiri fuori a posteriori, costruisci un articolo fatto bene in cui metti a disposizione tutte le prove di cui disponi, le elenchi e le metti a disposizione di chi poi deve verificare. Cioè, gli articoli con le prove pubblicate a rate, cioè immaginatevi se quando hanno scoperto il Watergate i giornalisti avessero pubblicato un'intervista alla volta, una foto alla volta, un'intercettazione alla volta di Nixon, che credibilità potevano avere? Dai. Vabbè, diciamo che lo spessore dell'inchiesta era comunque un altro. Grillo non ce l'ha mai avuta, Chi, scusa, Chavez? Io. Ah, tu? Ok, vabbè, no, ma poi insomma. Però la cosa divertente è che questo poi ha fatto scaturire tutti quei commenti di cui abbiamo parlato inizio puntata, del fatto che per qualcuno in America il Movimento 5 Stelle è il Partito Comunista Italiano. Diana Lorraine. Ora, voglio dire, cioè. No, ma se... che poi di fatti, cioè, la cazzata, tu ce l'hai già nel documento che ha pubblicato questo, dicendo: finanziamo questo movimento in modo che possa creare un partito alternativo di sinistra nel panorama italiano. Quindi o Chavez non aveva capito un cazzo, per carità, è probabile, oppure sta cosa lascia il tempo che trova. Sì, no, ma poi insomma, voglio dire, il partito che si è sempre definito post ideologico, che non si è mai comportato come un partito di sinistra, anche perché, voglio dire, è sempre stato la sua anima sovranista è sempre stata quella più spiccata, quella diciamo più al centro dell'attività politica, insomma, non tutto lo puoi definire meno che un partito che nemmeno ha mai ammiccato alla sinistra, perché tutto sommato, a parte la corrente di Fico, ma chi altro l'ha mai... Vabbè, comunque, insomma, da quelle so quelle cose che veramente non hanno un senso di essere scritte o lette. Poi mi dirai quanto gliene fregherà ai lettori spagnoli di questa cosa. Ma per carità di Dio, a quel punto, se sei un freelance, chiedi a un giornale italiano. Sarà mica la prima volta che si poggiano su giornalisti stranieri freelance per le notizie che vengono da fuori. Perché proporlo, ripeto, all'equivalente di Libero, o meglio, manco di Libero, della Verità di cosa, di Sallusti spagnolo. Beh, vedere. Bah, ragazzi, sono un attimino perplesso. Va bene, ragazzi, io adesso vi propongo di fare una piccola pausetta, il tempo di un brano, perché devo dire che io ho fatto una bella playlist lunghissima oggi, di brani sono avanzati tanti, e un po' mi è dispiaciuto di non aver messo un brano dei Kool & The Gang, e ve lo piazzo adesso e non dire parolacce, e quando torniamo riprendiamo un po' le redini della nostra puntata. Non scappate, non scappate. a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Ed eccoci rientrare sulle note di Celebration. Ci vuole un po' di celebrazione in una serata come questa, no? C'è da dire. Il mondo bisogna festeggiare. Sì, però guardi, aspetti che io apra il canale. Comunque, ridica, ridica. Detto, in attesa della fine del mondo bisogna festeggiare. Sono due o tre volte che festeggio inutilmente, però, perché questa fine del mondo non arriva. Intanto... Perché festeggiare è bello, festeggiare, aspettare la fine del mondo, poi se arriva, arriva, se non arriva... Male che vada, rifesteggi, basta, finché c'è birra. Volevo intanto dire... C'è fine del mondo. Peppe Rizzard mi corregge quando parlavo prima dell'anima dell'immortale, cioè dell'anima del Movimento 5 Stelle, dice anima populista non sovranista, ci mancava pure che il Movimento 5 Stelle fosse sovranista. Beh, in realtà se prendi il modo di parlare per esempio di Di Maio, ha voglia di essere sovranista, insomma, non dice prima gli italiani semplicemente perché lo diceva Salvini, ma concettualmente le loro manovre, le loro, diciamo, la loro visione, come dire, ma sono ambigui, sono sempre ambigui, che te fanno occhiolino, lo sai, hai capito che so, però in realtà non si esprimono mai, cioè non ce l'hanno un'anima, va bene tutto. Sì, vabbè, ma questo che non ci azzecca su Di Maio. No, dopo, quando finite, vai. No, volevo solo dire che questo, diciamo, è il meccanismo di funzionamento della politica odierna. Lo dicevamo anche quando parlavate prima di Agorà e del fatto che Toninelli e non mi ricordo chi altro non volessero mai prendere una posizione. Esatto, insomma, non è che lo fa solo il Movimento 5 Stelle, ormai conviene lo stesso PD non prendere una posizione, manco a minacciarli, insomma, ecco. Il problema è che il PD non prende proprio, cioè non esiste. Sì, vabbè, il PD sta ancora agli exit poll del 2012, ma questo è un altro discorso. Volevi dire qualcosa, Lobby? Sì, a proposito di Di Maio, mo sta facendo tutte queste missioni diplomatiche in giro per il mondo, per l'Europa. E ovviamente lui si fa, cioè, posta sui suoi profili il fatto che oggi siamo andati qua. Avete visto come si somigliano incredibilmente gli aeroporti di Lubiana e Atene? Sì, ma proprio sembra che siano stati fatti dallo stesso architetto. visto, sì, un posto proprio identici, visto ragazzi, un aeroporto, visti tutti, ragazzi, lo dicono sempre i viaggiatori, proprio identici. Vabbè, certe cose a volte, cioè, delle cose molto semplici ti sorprendono. Vabbè, questo volevo dire. Ma invece deve andare a Lugano e poi non mi ricordo più. Sì, però via nave andrà a Lugano, mi pare. Sì. Conviene, sì. Ci sarà un aeroporto. Si risparmia via nave, dai. No, ma poi ragazzi, il paesaggio è bellissimo, è quasi come navigare nei fiordi norvegesi, quindi voglio dire, perché non farlo? Ma sì. Senti, a proposito di personaggi in cerca d'autore, no? C'è un tale. Questo tale... Mano. No, no, questo... Questo tale è riuscito ad andare in pensione con la qualifica di generale dei carabinieri. Vabbè, tutti vanno in pensione come generale nei carabinieri. Sì. Tant'è che i carabinieri a un certo punto hanno dovuto spiegare il meccanismo con cui questo personaggio, insomma, ha fatto questa presunta, perché poi tale non è stata carriera nell'arma, insomma, parliamo di Pappalardo. Mi dà un fastidio boia che chi lo chiama tuttora il generale Pappalardo per cercare di enfatizzare una posizione che è assolutamente, come dire, formale, ma non, ma in realtà assolutamente non qualificante. Insomma, questo personaggio che è diventato l'alfiere di questo di questo movimento di contestazione, Gilet Arancioni, no? Sì, ha avuto i forconi, non c'erano bastati. Ha avuto un'idea genialissima, ragazzi, cioè, perché fare un ponte tra Reggio Calabria, tra Villa San Giovanni e Messina? Perché sporcare Cannitello, Scilla e altro, quando invece possiamo fare un molto più utile ponte con la Tunisia? Giusto. Minchia. Così non devo neanche del Vallo, Tunisia. Perché ricordiamoci che, com'era, i muri dividono, i ponti uniscono. I ponti uniscono, i muri dividono, eh sì. Ragazzi, ma io il ponte io farei saltare, ma quello dei denti, però vabbè. Scusa, vabbè, ammesso che ce l'abbia, tra l'altro. Insomma, vista l'età e tutto, magari è proprio tutto l'impianto, però veramente, ragazzi... Ma glielo fai proprio il ponte, glielo fai. Esatto. Sì, ma quello tibetano, avete presente? Ce lo strozzi con le corde del ponte tibetano, uno così, perché veramente, ragazzi, la follia, cioè, personaggio di un come posso dire, di una pochezza, di una nullità assoluta, che riesce poi ad avere anche un megafono. Io comincio a essere imbarazzato di vivere nel ventunesimo secolo, non so voi. È il ventunesimo. Questo è come il meme, esatto. Come no. Immaginavamo il ventunesimo secolo, come veramente, con le macchine volanti, e poi invece c'hai i Novax in piazza. Sì, rispondo a Pepe Rizzard, in quel momento effettivamente Torrefaro non mi veniva, però insomma da pilone a pilone, insomma, conosco entrambi, ho calpestato entrambi i piloni, la prossimità di entrambi i piloni, quindi sia quello del lato di Scilla che dal lato di Messina, insomma, nel secondo eravamo insieme, per cui sì, lo conosco. Comunque leggo Michela che rincarna la dose su Di Maio, dice che hanno fatto l'analisi a propaganda, questa parte me l'ero persa. E hanno sviscerato che praticamente quelle immagini si tratta di Ciampino durante la partenza. Azz, ma manco Fiumicino, quindi pure Ciampino, quindi pure con EasyJet volava, con Ryanair. Vabbè, ragazzi. Però giusto, siamo andati, e lui che quando parte, si fa la foto quando parte, mica quando arriva. Metti che non arriva. Tutto si fa la foto. Vestito identico, uguale. Appena atterrati a Lubiana in Slovenia, poi altro qualche giorno dopo. Appena atterrati ad Atene. Secondo me, lo sai qual è la cosa? Che secondo me parte da Fiumicino con aereo privato, poi lo fanno atterrare a Ciampino e dicono: guarda, benvenuto a Lubiana, venga a parlare con il cazzo imperio di Lubiana. E poi è uno che hanno preso un attore, e così lui è contento, capito? Perché secondo me può essere così, cioè magari lo prendono per culo. Evitare di farci fare brutte figure all'estero. Così facendo, Berlusconi ha venduto il Milan. Cioè, ricordiamoci che la tecnica è quella: prendi il cuoco del ristorante cinese che non parla una parola in italiano. Però lui lo sapeva. Di Maio può essere che non lo sa. Cioè, gli fanno giretti. Venga. Venga con me. Di Maio corre voce, ragazzi. Berlusconi, ragazzi, vuoi conoscerlo? Scusate. Corre mito che che Di Maio, un giovane all'epoca, Gigi Di Maio, ispirò l'autore dei libri di Game of Thrones, J.R.R. come si chiama? Aiutatemi. Martin. Mi veniva Tolkien perché ho mischiato un po' di iniziali. J.R.R. Martin nella creazione del personaggio di Jon Snow. e soprattutto nel sì. Tu non sai un cazzo, perché fondamentalmente è tutto lì il segreto di Di Maio, il non sapere un cazzo, insomma. Anche quello di Jon Snow, se avesse saputo qualcosa col cazzo che si allontanava da dove stava. Eh sì, ho capito, però diciamo che poi l'epopea, senza fare spoiler a chi non l'avesse visto, l'epopea di Jon Snow secondo me finisce un po' meglio di come potrà mai finire quella di Di Maio, ecco, così, nel complesso, tutto sommato. Voglio dire, ma Di Maio un giorno finirà che tornerà a vendere le bibite, ma sarà contento, quindi avrà raggiunto sì, il esatto. suo scopo, cioè, sarà tornato tra amici. La divisa non è uguale a quella dei Guardiani della Notte, ma sempre una divisa. Ma più o meno è quello. Però il gilet da Stewart di che colore è allo stadio? Arancione, secondo voi? No, pare sia ancora giallo e blu. A Napoli dipende, ci stanno i responsabili di settore di servizio che ce l'hanno arancione. Ne so qualcosa, ragazzi. Quante partite del Napoli ti sei visto? No, io ero già in Emilia Romagna quando per arrotondare, però quando hanno inventato il calcio. Di partite me ne sono fatte. Okay. Ma quando si andava a Verona, voglio dire, era terribile, lì non dovevi parlare perché se ti sgamavano l'accento ti strafacciavano. Vabbè, scusa, per questa lobby, tu dov'è che stai? Ma Ravenna, giusto? No. Come Ravenna? Reggio, ok, no. Niente. Perché ieri mi sono ricordato che una mia carissima amica che fa il tuo stesso lavoro sta a Ravenna. Mi è venuto il dubbio, non è che magari si sono incrociati e non lo so, le coincidenze della vita. Presente i 7 gradi di separazione? Sì. Vabbè. Può darsi, perché comunque io ero abbastanza attivo quando facevano delle cose all'ordine degli psicologi a Bologna. Degli psicologi. Ci andavo sempre, mi fregavo sempre le borsine, i gadget. C'è una vabbè, ti scrivo il nome in chat, dai. lascia stare. Allora, magari ti conosce. Ah, che vuoi fa? No, non la conosco. Oh, nel frattempo in chat condivisione di informazioni private. Michele invece ci scrive in chat: a Ciampino c'è il settore ufficiale degli aerei governativi e militari, nessuna personalità politica a parte da Fiumicino. Però questa cosa non l'ho capita, cioè se a Ciampino c'è il settore ufficiale degli aerei governativi, perché nessuna personalità politica a parte da Fiumicino? Perché se stanno a Ciampino non partono da Fiumicino, sono due aeroporti. Ah, da Fiumicino, giusto. Sì. Che scemo, no? È che sì, Fiumicino. Sì. Vabbè, ragazzi, perdonatemi. Oggi è lunedì, ma lavorativamente è come se fosse giovedì sera, perché è stata una giornata di 12 ore fuori casa. Insomma, quindi mi perdonerete. Si sbaglio, mi corrigerete. Ecco, per rimanere in tempo. Vabbè, dai, devi polacchi. Recuperare i giorni che sei stato chiuso in casa per il lockdown. Quindi ci sta, eh certo, ragazzi. Che volete che sia. Tra l'altro, passati a lavorare perché che altro potevi fare? Vabbè, comunque. Non ti lamentare comunque. Comunque, ragazzi, voi che dite? Cioè, qual è la vostra sensazione, il vostro sentire? Ci sarà la fase di recrudescenza di questo virus più in là nei mesi? O la sfanghiamo? Ecco, perché qua, con tutto quello che sta succedendo anche nel mondo, è difficile capire. Mia sensazione è che ce l'avremo, ma ce la faremo passare. Cioè, nel senso, senza un ulteriore lockdown, dici? Sì, secondo me adotteremo magari misure mirate, tipo isoleranno le zone di focolaio, ragioneranno in termini di comuni piuttosto che in termini di nazione. Ma difatti, se guardate la Cina, i nuovi focolai che hanno individuato, di cui un paio a Pechino, non hanno ragionato in termini di blocchiamo l'intera città come hanno fatto a Wuhan, sono andati già per quartieri, che comunque sono grandi più o meno quante province nostre, quindi sì. Vabbè, diciamo che lì c'è una libertà d'azione scala. Governativa che possono fare il bello e il cattivo tempo, tutto il contrario di tutto. Come dice uno dei miei scrittori di fantascienza preferiti, Charles Stross, il vantaggio, lui in realtà è abbastanza anticinese, però ha detto una cosa che fa riflettere. Si parlava però di politica energetica, del fatto che la Cina spinge sul rinnovabile. Fatto, se ci pensate, la Cina è nelle condizioni migliori per fare questi esperimenti, perché è l'unico paese al mondo che non ha un governo che deve preoccuparsi delle prossime elezioni. Forse non è l'unico, ma è l'unico tra le così grande che non sì, tra le superpotenze, diciamo. Beh, oddio, sì. Beh, in ogni caso, sapete, in Italia il problema è che la politica non... praticamente lo stiamo dicendo dall'inizio puntata, la politica non prende una posizione pur di non rischiare di perdere un voto, quindi insomma siamo così. Viviamo sempre tra coloro che sono sospesi, mi viene da dire. Beh, vuoi mettere? Vuoi mettere, ragazzi. Comunque io, Mussolini, comunque Mussolini c'ha ragione. Mussolini ha sempre ragione. Sì, sì, Mussolini. Sì, anche su TV 2000, soprattutto su già. TV 2000. Che momento di alta televisione. Sembra quasi la bestemmia a Capodanno su Rai 1, eh? Il livello è quello. Quella è stata altissima televisione. Anche poi quello è servizio pubblico, per cui intoccabile, sacrosanto, insomma. Perché era una mossa veramente avanti, ma un po' quelli l'hanno capita. Però Mussolini buttato lì su TV 2000, insomma, secondo me è un film di Gesù, eh. No, io quando ho letto un film di Gesù fascista ho pensato, boh, può darsi che c'erano i romani, facevano il saluto romano, sto stronzo si è indignato perché facevano... No, proprio poi c'era anche l'immagine fatta, proprio scattata dalla televisione, Mussolini ha sempre ragione, così, de botto. Senza senso, in realtà il senso ce l'ha, purtroppo. Già. Non lo so, non è tanto una coincidenza, secondo me, sto fatto, che proprio TV 2000, non lo so. No. Sì, c'è del gomblotto lì, attenzione, c'è del gomblotto. A proposito di gente che c'ha sempre ragione, ma poi come sta finendo con Capasound? Cioè... Ah, con Capasound, non sappiamo. Si sono addirittura offerti di pagare l'affitto, ragazzi. Ho letto. Quando la settimana prima veniteci a prendere se avete le palle. Poi no, ma vi paghiamo. No, veniteci a prendere l'affitto che ce l'abbiamo in mano, quindi. Però certo, i 17 anni pregressi, corca, che li pagano, secondo me, eh? E poi quanto vorrebbero l'affitto? 100 euro al mese? Vabbè, noi abbiamo un partito politico che sta pagando 49 milioni di euro in comode rate. 80, in 80 anni, sì, in 85 sì, anni, tipo, quindi ragazzi, di che stiamo a parlare? Grandi esempi politici, questo è veramente l'esempio, e questo è il più grande esempio di lungimiranza di un partito che potremmo sperare negli ultimi anni, cioè pagare i propri debiti in 85 anni. Questa è la cosa più lungimirante che vedremo fare da un partito, ed è una cosa triste. Senza contare che secondo me tempo un paio d'anni troveranno come dire un cavillo, un escamotage, e smetteranno anche di pagare. Trovato, hanno già diminuito tipo un botto, non so che cavolo si sono mentali. No, ma anche il fatto che sono passati da Lega Lombarda, Lega Nord, a Lega per Salvini Premier. Sì, hanno fatto Bad Company, Good Company, hanno fatto lo split, hanno lasciato i debiti nella vecchia società, un po' come l'Italia. Lasciato al senatore, l'hanno lasciati sicuramente. Tra l'altro, ragazzi, ricordiamoci che che mi sono dimenticato quello che volevo dire, perché nel frattempo leggevo un'altra cosa e quindi insomma dici le cose che stai leggendo. No, vabbè, varie cose legate appunto alla questione. Hanno praticamente ritirato fuori le foto di Salvini con Savoini in Russia all'epoca del Rublogate perché ovviamente Salvini non ha perso tempo a criticare la questione dell'andare a braccetto con regimi dittatoriali come Cina, Iran e Venezuela, no? Riferimento alla questione 5 Stelle, e qualcuno subito gli ha fatto notare Ciccio e così. Esatto. Ma perché io, scusa, non posso andare vicino a uno che sta trattando con uno stato dittatoriale e toglimi la maschera? No. Non posso. Vabbè, ma comunque facendo un passo indietro, quello tra tutti sti meme che ho visto è aspettate qua. Scusa, posso andare a schiacciare Ricci col culo? Sì, questo lo può fare. Questo lo può fare, esatto, ragazzi. Anche oggi l'angolino di raccontiamo un meme qui solo in esclusiva solo su GM. Volevo tornare un attimo. Meme alla radio. Esatto, meme al bellissimo, meme alla radio. Un passo indietro, Marco, di cosa stavamo parlando un momento prima di questa mia divagazione? Non lo so, non mi ricordo. Mia memoria breve ho subito un danno, lo sapevi? Me ne sono accorto, insomma, di essere il seggiolone da piccolo. La mia memoria breve ha subito un danno, lo sapevi? No. Ragazzi, voi ve lo ricordate? Un danno, mia memoria breve. Sì, ti sei anche alluppato, lo so. Di cosa stavamo parlando un attimo fa, Carmine? Di Mussolini che ha sempre ragione. Un attimo dopo. No, aspetta, che ci siamo persi. Lega debiti. Ah, New Company, Bad Company, eccomi. La Good Company, la Bad Company. Delle neuroscienze, memoria a lungo termine. Pare che ce la stiamo facendo a salvare un'ennesima volta l'Italia con soldi pubblici. Sì, con la scusa del Covid. Vabbè, non è che c'era bisogno della scusa del Covid, gli erano dati pure prima i soldi, figurati. Ho capito, però insomma, pareva sarebbe potuto essere l'ultima volta, invece come dire, c'è sempre un'altra volta in Italia. Mamma mia, ci sono alcune cose in Italia che è sicuro che si trovano, che funzionano: il sangue di San Gennaro, e non sempre, e salvare l'Italia. Queste sono cose che poi no, salvare l'Italia non funziona, nel senso che comunque sono sempre soldi buttati. È sempre l'Italia che va salvata in continuazione a salvarla. Per cui beh, mi chiedo, cioè, potremmo chiamarla Salvitalia. Dove finiscono? Perché tra l'altro l'hanno ridimensionata tantissimo, cioè hanno meno voli, meno rotte, meno personale. Dove li spendono sti soldi? In che? Nel fatto che comunque fondamentalmente volano in perdita, perché non riempiono gli aerei, anche se hanno dimezzato, ridotto le rotte, la flotta e tutto, poiché non hanno un'offerta commercialmente concorrenziale sulle tratte brevi, chiaramente volano in perdita, perché volevano, cioè avevano proposto di volare soltanto con un reattore con metà benzina, però poi esatto, sembrerebbe che non sia proprio il massimo dei sistemi di sicurezza di volo, per cui quello gli hanno sabotato, sennò potevano andare a pareggio. Ma comunque Alisalva, come li potremmo chiamare? Cioè, Alimortacci vostra, perché comunque sono veramente ormai decenni che, cioè, io penso sempre quando Berlusconi per l'ennesima volta non si è fatti i cazzi suoi, che l'avremmo potuta pioppare ai francesi. Avremmo avuto 4.000 all'Italia o Berlusconi potevamo appioppare, no, purtroppo all'Italia. Berlusconi si è appioppato da solo ai francesi, considerando che sta praticamente lì da dall'inizio Covid. Avremmo avuto qualche migliaio di esuberi che avremmo tranquillamente a questo punto già, diciamo, in qualche modo ributtato nel calderone, in qualche modo, in ogni caso. E invece no, continuiamo a così, facciamoci del male. Vabbè, tanto noi facciamo il ponte di Messina e poi se ne parla. Altri problemi. Ma io dico, scusate, ma se facciamo un ponte unico da Milano a Messina non è più pratico? Esatto. Il problema sono le aree di sosta. Dove le fai? Sulle Alpi, sugli Appennini, dovunque, dove capita. No, non parlare di aree di sosta sulle Alpi, che poi Pizzi si ricorda il Chicco d'Oro dove ci siamo fermati in Svizzera, che ce lo ricorderemo per tutta la vita. Mamma mia, ragazzi, 4 euro un caffè. Comunque, che caffè, immagino. Sì, assolutamente. Ma in tutto questo, visto che abbiamo parlato di Francia, cioè sicuramente avete sentito la roba di Montanelli in questi giorni. Oggi ne è venuta fuori una, vi giuro, io ne è venuta fuori una che non sapevo, e vi garantisco, io di puttanate scritte da Montanelli mi sono fatto una cultura per una serie di eventi della vita. Pare che tanti anni fa, in un'intervista a un giornale, negli anni 80 in realtà, no, neanche tantissimo, durante un'intervista a un giornale francese abbia detto: vabbè, anche voi avete le colonie, però non, certamente non chiamate per esempio gli algerini francesi, a noi tocca riconoscere ai siciliani il titolo di italiani. È successo un casino memorabile, difatti stavo vedendo le foto del tipo: in questa edicola non si vendono giornali che contengono articoli firmati da Indro Montanelli, che è più o meno quello che è successo da Roma in giù quando Feltri disse che i meridionali sono inferiori. Sì, poi non so se questa cosa è rimasta. Adesso che ho ricominciato a frequentare Napoli, proverò a vedere se nelle edicole hanno libero. Insomma, sono curioso di vedere se è stato un fuoco di paglia o se effettivamente ho prodotto. Ma Putignano un'edicola sicuramente lo vende, perché c'è un coglionito che lo compra tutti i giorni e lo incrocio quando vado a prendere il caffè. Quindi almeno una copia penso che qui la vendano. A meno che non gli arriva per posta e se la va a ritirare. Però tanto ricordiamoci, insomma, che le edicole, col fatto della tutela del reso, alla fine possono prendere quello che vogliono, tanto quello che non vendono non lo pagano. Sui quotidiani se no sarebbero fallite da mo. Sì, tra l'altro purtroppo, insomma, ho amici edicolanti e dico purtroppo è un business destinato, suo malgrado, nostro malgrado, a essere superato dal progresso, insomma. Comunque leggevo, a proposito di Capa Sound, Marco sarà interessato a sapere, una notizia che leggevo adesso, scartabellavo su Repubblica Roma, la CEA ha chiesto a Capa Sound, solo per acqua e luce non pagate in questi anni, una bollettina leggerina di 220.345 euro. Minchia, ti compri un appartamento. La rateizzano in 120 anni, no? È il problema che tra affitti, utenze, eccetera, lì volano milioni, che siamo quasi vicini a quelli fregati dalla Lega, insomma, e lo possiamo dire perché non c'è una sentenza passata in giudicato, non stiamo diffamando nessuno, eh. Scusate, ma quello stabile, voi che siete della zona, occhio e croce, quanto minchia può valere, seriamente? No, cioè 4-5 milioni è una roba grossa. No, credo di più, perché comunque sia tra la zona e diciamo la grandezza e tutto, e anche diciamo l'epoca, probabilmente qualcosa in più. Magari Marco, che è del mestiere, però può essere un po' più preciso. No, la zona lì non proprio non la conosco, cioè, fate delle stime così di qualcosa proprio qua. A casaccio. Comunque ragazzi, l'Esquilino è vicino alla stazione Termini, non è proprio, non è una zona chic, ma è comunque il centro di Roma, perciò voglio dire non costa poco di sicuro, ecco. Con un palazzo ma storico, mi sa. Sì, credo che comunque sia dell'epoca più o meno del ventennio come epoca di costruzione. Ma che circostanza assolutamente casuale. Urbanisticamente mi dà quell'impressione guardandolo da fuori, poi non mi sono mai informato, insomma. Vabbè. Va bene ragazzi, sempre in virtù della necessità di riposare un attimo l'ugola, chiedo se l'hobby è pronto. Fammi un cenno con la testa. Deve essere pronto. Perfetto, mi hai fatto un cenno con la testa. Allora ragazzi, noi anche questa settimana abbiamo il brano della settimana, tra l'altro con un grandissimo colpo di coda il nostro Leo Vargion, che ce lo ha mandato mentre eravamo in diretta. Non vi siete accorti di niente, ma abbiamo allestito, preparato il momento dell'ascolto del brano di questa settimana, quindi siamo i primi per questa settimana a lanciarlo e a promuoverlo qui su OGM. Lobby, il brano della settimana è The Battle of Lepanto dei Cremisi. I Cremisi non sono altro che una band italiana symphonic epic metal che è nata nel 2016, e questo brano è tratto da un album che si chiama Dawn of a New Era, in cui una sorta di concept album in cui parla praticamente di eventi storici, partendo dal teatro dalla storia dell'arte, di eventi storici accaduti tra il Medioevo e il Rinascimento, e in particolare questo brano Battle of Lepanto parla della battaglia storica nel XVI secolo combattuto nel Mediterraneo fra la Lega Santa e l'Impero Ottomano. Io direi di farlo partire. E noi per questioni radiofoniche siamo costretti un pochino a sfumare questo brano, però ce lo teniamo in background, o no, caro Walter, che dici? Come preferite, scusate, non avevo aperto il mio canale, teniamolo in background, assolutamente sì. Comunque, ripeto, questi erano i Cremisi con The Battle of Lepanto, e questa però è una versione orchestrale del brano originale, che in realtà è sempre un metallone incarognito, un epic metal incarognito, ed è possibile comunque cercarlo sia su Spotify che su YouTube, e che immagino siano anche un pochino sui social, quindi cercate i Cremisi. Battle of Lepanto, no, però è Lepanto, quindi è inutile trasformarla, a inglesizzarla inutilmente, anche perché insomma Lepanto. Oggi parlavo con un amico dello scontro epico tra un americano e un australiano, che parlavano in inglese secondo i loro canoni di inglese, insomma, se ne dicevano di ogni e non si capivano tra loro, però vabbè. No, dovevi trovare un indiano che parlava inglese per metterli veramente in difficoltà. Il Gupta della situazione. I'm very happy to find you, sir. Very happy. A me piace un casino come parla. Però diciamo che noi che non siamo madrelingua lo capiamo più facilmente, il Gupta della situazione, piuttosto il Rajesh della situazione, piuttosto che l'australiano che parla inglese cambiando poi tutti i fonemi. Ragazzi, vi fa uscire scemi, mamma mia. Ragazzi, io domani c'ho una conference call con uno scozzese, abbiate pietà di me. Ubriaco? a whisky? Non lo so, alle 10 ci dobbiamo... Qui sentire. Sarà già ubriaco presto, probabilmente. Dobbiamo fare un deploy di un ambiente. Io, lui, due suoi colleghi che però vivono qui in Italia, e un mio collega bergamasco. Quindi penso che succederanno cose interessanti. Ragazzi, mi è venuta in mente la classica scena oddio mio, quando non mi devono venire i nomi in diretta e qualche cosa del. L'Alzheimer ci divora. Falta. Sì, sì, ma d'altra parte ormai è tempo che la natura faccia il suo corso. Alla Gianni Minà, volevo dire. Ecco. Sì, vabbè, ma io sono nato vecchio. Sei peggiore quelli precoci, le forme precoce. Quelli esatto. Più rapido e micidiale. Ma guarda, oggi ne parlavamo con un collega, alla fine è pure un bel modo per dimenticare i problemi, la dimenticanza, l'oblio, il rincoglionimento in quanto patologia. No, in realtà poi ti rimangono tutte le paranoie, tutte le... È stato troppo bello qualche giorno fa che sto facendo questo percorso di potenziamento cognitivo con gli anziani, solo se c'è uno un pochino più peggio degli altri. Comunque era mezz'ora che sta parlando, sto facendo tutto, e mi dice: mi scusi, ma il signor Di Muro quando viene? Sono soddisfazioni. No, perché ero con la mascherina, ma ho visto sempre con la mascherina, con i capelli, con gli occhiali, che non porto praticamente mai, i capelli raccolti, quella volta invece ero con i capelli sciolti, la mascherina e tutta, quello, allora, già un pochino compromesso. Ma è bello che dopo mezz'ora mi scusi, ma Francesco quando viene? Vedi, qua capisci che in realtà mettersi gli occhiali è una soluzione funzionale, quella di Superman per mascherarsi. No, ma poi scusate, lui era semplicemente, ragazzi, lui era semplicemente un ascoltatore, per poverino, è un ascoltatore di OGM e conosce la trivalenza del nostro Lobster, e quindi ha capito che in quel momento a dialogare con loro non c'era Francesco Di Muro, ma c'era Lobster o Lobby Frontali, chi può dirlo, però c'era una delle sue molteplici personalità. Esattamente, ricordiamoci che lui è, che Francesco è il personaggio realmente esistito che ha ispirato Split di Shyamalan, ecco. Split mi spiccia a casa, ecco, appunto. E anche lui Shyamalan. Split mi spicciano casa. Che sensazione bellissima è stato essere l'unico insieme a mia moglie nella sala a capire il finale di Split. Ma chissà chissà in quanti hanno visto tutta la trilogia, perché molti non avevano neanche ricollegato che il film fosse tra virgolette ricollegato direttamente ad Unbreakable, perché poi è un film un po' lo Shyamalan-verse. Tra l'altro quel film è stato abbastanza criticato all'epoca, non capito, perché era uno di quei film in cui ovviamente per sottinteso il regista ti faceva credere che il film avrebbe dovuto parlare di un certo argomento e non smentiva il fatto che non fosse così. Quindi tu un po' come anche Signe, tu andavi a vedere un film che in cui pensavi Sign, che il tema Sign, che il tema fosse portante, fosse nel caso di Unbreakable comunque i supereroi, e invece non parlava di superpoteri più che supereroi, invece non parlava precisamente di quello. Vabbè, no, proprio, Sign parlava di alieni stupidi fondamentalmente, quello è, quello è Sign, quello sì, però tu pensavi che parlasse di Crop Cycles, no, invece, invece è, è una critica feroce alla, alla società che, invece, che evolve, quindi raggiunge un grande livello tecnologico in grado di viaggiare in est, le mafine rimangono tutti dei complottisti del cazzo, erano esatto, degli ignoranti che non sono aprire le porte fondamentalmente. Però vabbè, vabbè, il cappello di Stagnola è meraviglioso in quel film, continua a essere una delle mie scene preferite in Sign. Sì, che poi ha ispirato anche i cappelli di protezione contro i rettiliani e tante, tantissime altre cose. Beh, in realtà è il contrario, sì, sì, però, sì, sì. È chiaramente preso da questa, dai diciamo deliri di molta gente che pensa che con il cappello che gli viene letta alla mente, quindi penso col cappellino di stagno di Stagnola i suoi pensieri sono al sicuro, quindi ce n'è una folta, diciamo, molti racconti americani si basano. Però attenzione, c'è anche un personaggio in The Tick che tra l'altro va in giro con la carta Stagnola, ma c'è un motivo. Sì, vabbè. So se, vabbè, c'è un motivo. Ragazzi, però una cosa molto importante, provate anche a rifarlo a casa, non ci sono problemi, ma ricordatevi che non vi protegge dal 5G. No, assolutamente. Fino a 4 ci arriva. Per il 5G dovete utilizzare un'apposita chiavetta USB, esatto, che noi di Runtime vi mandiamo a casa, pagamento in modica spesa, con il logo di Runtime sopra, dovete tenerla inserita nel vostro computer. Scusa, gli avvocati ci hanno consigliato di non mettere il nostro logo sulla chiavetta. Una chiavetta senza logo di Runtime. Esatto. Mettiamo il logo Lega Nord. Voi sappiate che è di Runtime, voi sapete che è di Runtime, voi fidatevi comunque. Ragazzi, invece, a simpatia, sì, però cioè, diciamo, le spese di spedizione sono di 65 euro. Esatto, esatto, possiamo fare questa promo per cui la chiavetta è gratis, paghi solo le spedizioni 65 euro, ci può stare, insomma, è onesto, è onesto. Dicevo, ragazzi, so che insomma non siamo il programma videoludico del canale, no, però facciamocela una piccola divagazione, tanto sono le 22:15, tra un quarto d'ora ci andiamo tutti a dormire. Sony ha tirato fuori l'artiglieria pesante settimana scorsa, ne hanno parlato Simone Pizzi, ne ha parlato anche parte del nostro cast attuale, ne hanno parlato i Beceri, ma insomma traiamo qualche considerazione anche un po' tra di noi, che ci frega, che ne pensate di questa con noi in quel momento, era un crossover, come? No, dico i Beceri con noi, eravamo sì, sì, certo, nella puntata crossover su Twitch settimana scorsa, assolutamente mi riferivo a quello. E dico, allora, vi ha stupito, vi è piaciuta, cosa vi ha deluso? Brevissimamente, visto che appunto non è il nostro tema portante, però diciamocelo, se l'avete vista, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Iniziamo da Marco. Allora, che cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto molto il colore bianco, bello, cioè pieno di colore. Pieno razzista, bianco. Razzista, sei un razzista. Ma c'è anche il nero al centro, no? Che simula un Ringo. Al contrario. È un oreo, un oreo. Il nero che oreo, viene picchiato, che viene circondato dal bianco e viene picchiato male. Ah, non era una trisom con il nero che fa il sandwich? No, purtroppo no. Ho capito. E cosa non ti è piaciuto invece? No, ma allora, diciamo la lineup del gioco dei giochi che praticamente mi è sembrato un po' insomma interessante, non interessante. Un GTA 5 sparato. Basta, anche basta, quello lo possiamo dire? C'ha soltanto 7 anni. Eh sì. Cioè, no, davvero questo... è stato declinato da per due generazioni di console, perché è uscito nei primi anni, tra virgolette, a metà scarsa della vita della PlayStation 3 e poi è stato rilanciato nell'epoca PlayStation 4, e quindi basta, anche basta. Che bap, anzi. Che bap. Vabbè, quello è il fatto che Rockstar ci impiega 10 anni per fare un gioco, quindi quelli che tirano fuori poi li devono spremere fino all'ultimo, fino all'osso. Come ha scritto qualcuno, Rockstar è l'unica software house che non ha concorrenza. Quindi che non ha, scusa? Che non ha concorrenza, perché quel tipo di giochi a quel livello li fa solo lei, sì. E si può permettere di farne uscire uno ogni 10 anni di due serie diverse, senza che nel frattempo esca niente che arrivi a quel livello. Eh sì. Ma visto che ci siamo, che stavamo parlando appunto di questi bianchi che circondano i neri e li picchiano, però aspetta, prima di cambiare argomento, volevo sentire anche gli altri su questo tema, se possibile. Ma che cosa c'hanno da dire? Sono tutto non detto niente. Non so, cioè, Francesco, che c'è da dire? Ma io l'ho seguita un po', l'ho seguita la live, ma più che altro vi ascoltavo, vi ho beccato da metà, poi ho recuperato la parte podcast, però ancora devo vedere delle cose di cui raccontavate. Boh, io credo che anche quest'anno non anche quest'anno me la compro l'anno prossimo. Anche quest'anno me la compro l'anno prossimo. O meglio, sto mettendo da parte un po' di soldini per cambiare finalmente sto cacchio di PC e prendermi un fisso, così imparo anche a montarli un pochino io, perché è una cosa che da sempre voglio fare. Per voi è una cosa quotidiana, per me no, quindi al massimo io ho cambiato l'hard disk del portatile e basta, però. Vabbè, dai, vengo io a Reggio con i cacciaviti precisione, te lo insegno. No, ce li ho i cacciaviti di precisione. Cacciaviti di merda! Nota citazione, esatto. Di Marco Valleggi. Più sulle note tecniche, a parte che è una bestione, cioè in confronto alle altre console hanno fatto comparato, poi sto fatto davvero quanto davvero ha senso fare la versione Blu-ray, la versione con lettore e la versione senza lettore. Allora, io su questo ti rispondo. Io su questo ti rispondo, perché se serve a far morire GameStop va benissimo. Ma quello ci provo già da solo. Ok. Però confrontando proprio quell'elemento, hanno visto che rispetto alle altre console è una gigante, cioè non ci va sotto vicino al tele, cioè davvero devi comprare un mobiletto apposta, magari devi comprare un Xbox nuovo apposta per metterci sopra questo qua come supporto. Ma in realtà Marco, scusami Francesco, se andiamo a fare un calcolo dei volumi, la Xbox ha una forma diversa, ma in termini poi di volume non è molto differente, è più bassa e più larga, è bassa e tarchiata, quindi e che sicuramente Microsoft ha scelto un design più conservativo che magari aiuterà la dissipazione, non lo so, speriamo per loro, insomma. La PlayStation c'erano dei giochini interessanti, tutto sommato, cioè c'erano come si chiama, Horizon Zero Dawn 2 là, che sembra chi cazzi. È solo che non si sa bene quando uscirà. Diciamo che a me quello che è dispiaciuto della presentazione è che Cyberpunk, ciao, non si è visto. Vabbè, Cyberpunk comunque è considerato comunque un gioco di questa generazione, sì, quindi ha fatto vedere soprattutto le esclusive. Le esclusive. E poi comunque no, in realtà non solo, perché i giochi che hanno visto si è visto Capcom, per esempio Resident Evil eccetera, non sono esclusive. Resident Evil pare che sia esclusiva, sì. Ragazzi, no, ragazzi, non credo, perché la Microsoft era temporanea. Vabbè, anche se fosse temporanea, ok, ha fatti i soldi PC, ma anche se sono temporanea, come anche Death Stranding, però calcolando anche GTA 5 allora lo era all'epoca, voglio dire, niente è quasi niente. I first party sono da considerare esclusive, ma ce ne usciamo col fatto che sono esclusive temporali, o a volte abbiamo l'esclusiva console, cioè esce per PC e una delle due console maggiori, però il periodo in cui usciva solo roba per una console e restava là, non penso che lo vedremo più. Può darsi. No, io quello che volevo solo, forse la roba Naughty Dog, probabilmente. Vabbè, Naughty Dog è quasi come fosse uno studio interno, cioè comunque è finanziata su pochissime altre. Anche quando credo anche la compagnia di David Cage, come si chiama? Quantic Dream è praticamente l'hanno sempre, cioè, ciao, gli hanno fatto ciao. Sì, sono rotter cazzo. Dicevo, invece, una cosa che a me non è piaciuta della presentazione, al di là poi di quello che si è visto, è che sapete che impressione mi ha dato? Quello di vedere una sorta di playlist di video messi là in sequenza, anche un po' a cazzo, senza un vero filo conduttore, senza, come dire, una narrazione. Col fatto che poi a un certo punto hanno cominciato a dare un sacco di spazio a giochi indie che potevano essere, come dire, potevano, con tutto il rispetto, perché ormai anche giochi indie sono tecnicamente significativi, Però diciamo gli hanno dato nell'economia della presentazione un peso forse eccessivo. Io a un certo punto mi ero veramente appallato, a metà volevo spegnere la presentazione, però quello che mi incuriosiva era capire se ci avrebbero poi presentato almeno un gioco che ci avrebbe fatto dire: ah, vedi, eccola lì, la nuova generazione. Se lo tengono alla fine, ma qui la fine, infatti, della presentazione della console. Infatti, alla fine proprio. Sono contento che hanno fatto vedere la console, però giochi che ci fanno gridare al miracolo e al passaggio di tecnologia di generazione, io non ne ho visto nessuno. Oltretutto, se tu mi devi convincere del fatto che la nuova console, la nuova generazione di console, ha un salto qualitativo nella grafica, negli effetti e tutto il resto, non mi vuoi far vedere una presentazione bloccata, bloccata a 1080 ad un buffering, o meglio un buffering, ad una compressione veramente immonda, perché mi è sembrato veramente presentazione l'hanno fatta, e la presentazione delle potenzialità della nuova generazione l'hanno fatta, con i presentatori. Sì, ma tu dici no, ragazzi, pare che non sia vero. Sì, lo so, però a questo punto se la potevano vendere. Sì, effettivamente si la potevano vendere. Quasi, cioè, noi non siamo stati gli unici che scherzando con qualche dubbio. Ma tutti. Era proprio, era una roba. Sì, ma semplicemente perché erano riprese che si erano fatte a casa durante il lockdown e ci hanno messo questo trucco color di correction. Questa color correction. Però a questo punto dicevo, se la potevano vendere. Sì, effettivamente è vero, sono tutti quanti. No, ancora meglio, era dire metà e metà, cioè alcuni erano veri, alcuni no. L'avete vista la differenza? No, vedete, allora funziona. Cioè, quella era la genialata, però diciamo ce la siamo immaginata noi più che altro. Boh, io in realtà quando ho visto la presentazione le uniche forti emozioni che ho avuto sono state Spider-Man, ma non per motivi videoludici. Sì, no, perché io ho un grande amore per i supereroi, ma soprattutto la cosa che ho detto, ma quasi quasi tolto Horizon, è che ho visto che il team che sta dietro a Hyper Light Drifter ha fatto un gioco in rilascio, ho detto, minchia, ma me la compro, cioè, per un indie, quanto che si ruota, che si fa, sì, figo. Ma io lo guardavo e dicevo, frega un cazzo che è un indie, cioè se esce esclusiva PS5 me la compro. E invece io ho tipo 120 ore di gioco su Hyper Light, ho fatto tutti i segreti, tutte le mappe. Lo aspettavo e ci devo giocare ancora. Pure quello, Mattizia. Cioè, poi io mi hai detto tu che è bello. No, cioè, è bellissimo. Mi fido. È uno Zelda come molto, molto, cioè, ti devi molto immaginare a Link to... No, ti devi immaginare a Link to the Past. Fatto però in questo universo sci-fi molto particolare, sì, dove tra l'altro nessuno parla, devi interpretare tutto quello che succede. Quello è stato il secondo gioco dove ho perso le nottate insieme a Hollow Knight, perché in realtà non sono neanche esattamente il mio tipo di gioco preferito, però l'ambientazione era talmente bella che ci ho perso completamente la testa. Praticamente il Dark Souls degli A Link to the Past. Sì, bravo. Una cosa a caso. Invece io, essendo invece, mi è piaciuto, non è che mi ha sorpreso, però mi ha fatto piacere che stanno lavorando davvero a sto nuovo Oddworld, perché sono un vecchio affezionato di Abe, cioè li ho giocati e stragiocati sulla prima PlayStation, quindi quando hanno visto che praticamente è una sorta di seguito diretto del remake che hanno fatto del primo, e quindi questa è una sorta di reimmaginazione di Abe's Exodus praticamente, quindi è stata una sorta di reboot alla fine che hanno fatto. Io pensavo che era proprio un altro gioco, invece no, questo è il capitolo 2 di nuovo, siamo ritornati da capo. No, sono rimasto contento perché, ripeto, è uno dei giochi a cui sono stato più affezionato. Ogni tanto li rigioco ancora perché... secondo me non è mai stato, anche se è stato piuttosto relativamente famoso come gioco, la sua eredità tra virgolette non è mai stata colta, cioè quel tipo di gioco come non è nessun altro. No, ma c'è stato anche un capitolo che fu sospeso mentre era ancora in produzione, dove ci doveva essere come protagonista una specie di ribelle della stirpe di Abe, tra l'altro disegnato benissimo, doveva essere un incrocio tra un pistolero e un rider con la motocicletta, una roba bellissima, soffocata nella culla, perché probabilmente... Sì, ma tanti progetti di Oddworld li hanno soffocati, alcuni devono essere anche semplicemente dei film... Vabbè, io questo, guarda, gli do fiducia, soprattutto sì, se esce anche per PC subito me lo piglio. Sì, però mi interesserebbe molto questo. Faccio, tu riprendi tutto a prescindere, dai. Magari The Hand of Odd, forse. No, Sligstorm, forse. Sligstorm, quelli che erano Slig Ribelle, sì, Albin. Cioè, pensate che io sto combinato talmente male che mi sono preso No Man's Sky su PC perché volevo esplorare qualcosa. Bravo, bravo. Tra l'altro l'ho pagato il giorno prima che lo mettessero su Game Pass. Che bello, bravo. Porca puttana. No, ma difatti, se andate in chat a un certo punto c'è, diciamo, un'espressione mia poco civile a commento della notizia. Penalmente perseguibile. No, zia. Comunque esatto. Io direi di tornare a bomba, quindi no, bombe no, perché ne abbiamo parlato tutto il giorno, ma cioè questi venticelli di guerra, insomma, finiamo. Sì. È ora il momento di tornare al clou, e cioè praticamente questa brutta storia del razzismo che sta solo in America, solo in US, solo lì sta. E di tutto il casino che sta succedendo, insomma. A che punto siamo, Walter? Siamo arrivati alle statue, poi c'è stata qualche altra novità nel frattempo. Ma guarda, mi sono a un certo punto disinteressato, se non prendere, insomma, spunto a un messaggio in chat di prima di Leo Argon. Basta, no? Insomma, sì, beh, insomma, a parte la notizia di Lercio in cui a Minneapolis nelle rivolte è stata distrutta una statua, ma in realtà era un artista di strada, insomma. Decapitato una strada, in realtà era un artista di strada. Invece Trump che si dimostra essere un grande presidente che unisce il popolo. Sì. Praticamente dice che non guarderà più il calcio, perché se si inginocchiano pure loro come l'NFL, che poi l'hanno vietato perché glielo hanno, ovviamente, non sia mai che prendi una posizione, non lo guarda più. Io posso dire anche non pensavo che Trump sapesse che esiste il calcio, ma secondo me questa fondamentalmente è una notizia secondaria. È più interessante quello che vuole fare lui a luglio. Aspetta, cos'è la riunione? Vuole togliere tutti quanti i sussidi ai disoccupati, perché giustamente disincentivano il lavoro, certo. Se no non vanno a lavorare a questi, capito? Sì, no, guardate, questa era la stessa politica della Thatcher. Ho capito, ma era anche un altro periodo storico, insomma. No, non ha funzionato neanche allora. Sì. Cioè, io una delle più belle lezioni di economia politica l'ho avuta da un professore di destra neoliberista che disse: però ragazzi, tenete presente una cosa, non è detto che sta ricetta funziona sempre, perché tanto chi si riempie la bocca parlando della Thatcher, e fece vedere una diapositiva tra il debito pubblico inglese prima e dopo di lei, ed era molto più alto, e disse: perché vedete, nonostante questo è successo questo, quindi valutate voi se valsa la pena. Nonostante cosa è successo, cosa? Perché nonostante sennò... la macelleria sociale che aveva fatto la Thatcher, il taglio ai sussidi ai disoccupati, alla sanità, eccetera, eccetera, il debito pubblico inglese dopo la Thatcher era più alto di quello che c'era prima, e anche di parecchio. Beh, anche perché era la compressione del debito pubblico, lì ha fallito. Mi viene da pensare che, come al solito, se non metti in condizione le classi predominanti, quindi inevitabilmente le più povere, perché le più numerose, di mettere denaro in circolo, un'economia soffrirà sempre, insomma. Non è il ricco che si compra la Ferrari a mandare avanti l'economia di un paese, ma sono i 100.000 poveri che si comprano la Panda, mi verrebbe da dire, ecco. O la Dacia, o la macchina scrausa. Sì, ma era per fare un paragone pratico, certo, non è che ti sto dicendo che ti devi comprare la Panda, anche perché, insomma, sono soldi spesi male. Ma è roba degli Stati Uniti, e non ci frega niente. Come alla fine, cioè, se Trump fa morire di fame i suoi sussidiati, cavoli suoi, cioè, tanto lo votano, perché quindi Trump è forte, fa bene all'economia. Però io di questa cosa sono terrorizzato, cioè io mi domando, ma sono sicuro che poi effettivamente è una strategia che potrebbe avere successo. Qualcuno ha sempre successo. Se con tutto quello che dice le classi meno abbienti americane lo continuano a votare, lo dico per ogni puntata del GM, se lo voti te lo meriti. Di Trump, tranne che non sia ambiguo, cioè lui c'è quell'idea, te lo dice, cioè, poi magari cambia idea dopo 5 minuti perché lui è bipolare. Sì, bipolare, sono d'accordo con te, ambiguo no, nel senso che non è che te la farà mai Salvini le turno, per dire, capito? Cioè, non te lo dice, Sì, vabbè, perché comunque sia, come dire, Trump c'ha dalla sua anche, oltre a un diciamo una questione anagrafica, nel senso che fino a un certo punto gli può fregare, perché insomma è rimasta nel messa in giro di palazzo, ma al di là di quello c'è pure un discorso, come dire, di abbienza, cioè Trump alla fine resta comunque pieno dei soldi, sai che gli frega lui. Un Salvini un domani che si brucia politicamente va a fare, non lo so che lavoro va a fare, va a raccogliere i pomodori? Non lo so. No, non può perché viene picchiato. In Russia ci sono delle miniere di carbone ancora attive. Le miniere di polonio però potrebbe andare. Beh, sì, esattamente. Ragazzi, Simone Gusella nella chat di OGM dice una cosa giusta riferendosi a Trump e alla sua scommessa di tagliare i sussidi ai... ai disoccupati. Dice, ma a sto punto eliminasse le assicurazioni sanitarie, così la gente ci pensa due volte prima di ammalarsi. In realtà l'assicurazione sanitaria è una forma di guadagno, al contrario, l'assicurazione te la devi poter permettere, quindi insomma non aiuta l'assicurazione sanitaria, intanto aiuta la ricchezza prima ancora dell'indigenza, per cui tant'è che ci devi comunque, se sei povero, pensare bene 2, 3, 5 volte prima di ammalarti, come il caso appunto di quel tizio che uno dei primi malati gravi di coronavirus in America, che è stato poi si è salvato fortunatamente, però è stato ricoverato in terapia intensiva 60 giorni credo, attaccato ai respiratori eccetera, gli è arrivata una fatturina di $1.200.000 che pare che verranno coperti di nuovo in terapia intensiva, esatto, per infarto. Pare che sarà ricoperta, la cifra pare sarà comunque grosso modo tutelata dalle assicurazioni che sono nate proprio nel periodo del Covid, però insomma capisci che sì, c'è una parte che avrebbe dovuto pagare lui, che è stata pagata da un anonimo benefattore, esatto, il famoso anonimo benefattore, però insomma la situazione Bill Gates. La situazione è veramente assurda. Cioè, pagate il mercurio, sì. Esatto. In dollari. Moderate di mercurio. C'è anche la notizia della nipote di Trump, cioè la figlia del fratello che è morto pochi anni fa di alcolismo, che farà uscire ufficialmente di infarto. Vabbè, qui dice che ufficialmente. No, pochi anni, se non ricordo male, parliamo nel. È morto asfissiato, neanche Floyd. Quindi, è morto di coronavirus. Era positivo. È morto di coronavirus. Di epilessia è morto. E che dice che praticamente la morte del padre è dovuta anche al fatto che mi sembra che gli abbia anche dato una piccolissima mano nella campagna elettorale, è dovuta al fatto che comunque non voleva tra l'altro impelagarsi nella impresa di famiglia, però Trump Big Trump gli diceva che doveva praticamente occuparsi degli affari di famiglia, lo pressava abbastanza, quindi aumentandogli leggermente l'ansia, sai, perché Jesse è fratello di Trump, ecco, l'ansia ce l'hai. E quindi piano piano ha aggravato la sua situazione, ha aggravato la sua anche. Scusa, però Marco, non riesco a capire il nesso, nel senso il fratello di Trump è morto nell'81, che c'entra la campagna elettorale? Non lo so, però così stavo leggendo, adesso non so se comunque. Ma quella è la sorella che ha detto. Ah, la sorella, giudice, tra l'altro, e che adesso non parla più del fratello perché pare che la cosa abbia dei risvolti negativi sulla sua carriera. Che strano, eh? Già fatto che si chiama Trump di cognome dovrebbe essere, no? Vabbè, se si chiamavano Kennedy era peggio. Sì, fra poco Trump si chiamerà anche una ridente cittadina. Sì, in Israele. Vogliamo chiamarlo così, ragazzi. Sì, perché Netanyahu ha detto che proprio oggi è inaugurata la cosiddetta Ramat Trump, cioè Trump Heights, cioè le colline di Trump, che attualmente consiste in 3 baracche in cui ci abitano 15 persone, di cui 3 zoppi, 5 pecore, 2 cani pastore, uno a 3 gambe e l'altro con una palla sola. C'è anche qualche micino, però non lo so. Più mi si accappona la pelle in quello stato dove ogni anno commemorano la Shoah, ecco. Vabbè. Sì. Vabbè, io non riesco proprio. Cioè, bello con il referente politico dei suprematisti bianchi. Vabbè comunque, okay. Ragazzi, che vi devo dire? Una cosa ve la devo dire. Sono bianchi, quindi cioè, potrebbero andare bene. Cioè, c'è di peggio per loro, capito? Sì, i suprematisti neri. Ma bianco, nero, infatti, via col vento, Hazard, che ne volevamo parlare. più roba vostra questa, mamma mia, no, ragazzi, seguito poco. No, io guardate, l'unica cosa sensata su Hazard l'ho sentita dire all'autore, al curatore di Dylan Dog, che ha detto: sentite, noi lo so che ci vediamo quello che ci vediamo in Hazard, cioè vediamo, vabbè, un telefilm d'avventura ambientato nel sud, negli stati del sud degli Stati Uniti, e vabbè, cioè orgia, quello che volete, però ha fatto, cioè contestualizzatelo, è come se uno scampato alle leggi razziali in Italia vedesse che la Rai trasmette lo sceneggiato in cui i fratelli Dux, Adolfo e Benito, guidano una macchina chiamata Decima Mass con sopra la bandiera con la svastica. Se sei un afroamericano, quello è l'equivalente. È una questione di contesto. Per loro, giustamente, vedere la bandiera confederata in quel tipo di iconografia, in quel telefilm, è un pugno. Sì, sì, ma che fosse da questo punto di vista, diciamo, quantomeno inappropriato già all'origine, perlomeno nel mio colloquiare con gli amici si è sempre detto. Che, però, diciamo che era anche una forma, di esorcismo, dici tu, vabbè, ok. In un certo senso sì, perché comunque si rideva esorcismo, abbastanza addosso, ed erano tutti personaggi anche abbastanza macchiette, sì. Senza considerare che secondo me c'era comunque quella critica generale agli stati del sud dell'America, cioè stati di bifolchi. Io ti sto comunque inserendo in un contesto di bifolchi, perché là il meno bifolco era comunque un bifolco. Vabbè, c'era la cugina Daisy, torno a dire, sì, la bifolca anche lei, ma proprio tabì tantissimo. No, ma in realtà dicevo, una discussione che facevamo altrove anche con Simone, anche il fatto di Via col Vento diventa una questione di contesto, perché se Via col Vento lo vedi come una rappresentazione storica accurata del periodo della guerra d'indipendenza, anche sti cazzi, perché la figura di Mami se la sono inventata come forma di autoassoluzione, cioè sotto certi punti di vista è molto più realistico Django di Tarantino che non Via col Vento. Per me, per certi versi, se quel film lo spieghi è un conto, se lo lasci così diventa una giustificazione, perché era quello che poi faceva notare una persona di HBO in un'intervista. Vai a leggere commenti del tipo: ma se guardate Via col Vento, prima erano felici di essere schiavi perché comunque avevano un lavoro, erano tutelati, il padrone si prendeva cura di loro. Dove? Ma questo è un problema grave, perché voglio dire, è la cartina tornasole dell'ignoranza che dilaga. Però secondo me ogni opera, che sia cinematografica, televisiva, letteraria, artistica in generale, va contestualizzata all'epoca in cui è stata realizzata. Sì, sarebbe grave se Via col Vento lo facessi oggi, diciamo, rappresentato in quelle modalità. Ma seguendo le logiche degli anni in cui è stato comunque prodotto, la cultura era diversa. Non è una giustificazione, però è anche un cercare di dire: un attimo, signori. Allora cancelliamo dalla storia metà delle opere prodotte in generale. Si tratta di, cioè, HBO non l'ha cancellato, ragazzi. Cioè, ragazzi, HBO non l'ha cancellato, ha detto: lo rimettiamo in streaming, lo facciamo precedere da una spiegazione, una sorta di mini documentario che spiega qual è la genesi del film, quali sono gli errori storici, perché sono stati creati in maniera consapevole quei personaggi che non rappresentano quella che era poi la realtà storica degli eventi. Come tutte le cose le devi spiegare. Ho capito, ma allora questa meccanica e questa logica la devi applicare a qualunque prodotto, perché purtroppo chi ti offre quel prodotto deve farsi carico di una responsabilità che non è sua, che è quella della formazione preventiva. Se tu a scuola queste cose non le spieghi, io non ho idea come funzioni negli Stati Uniti, ma per dire, quanti di noi funziona al liceo, che se c'è la pistola più grossa vince. Scusa, esatto. Adesso faccio una provocazione, no? Ci sono dei testi, lo stesso Mein Kampf, se tu vai in libreria lo trovi, qualcuno si preoccupa di spiegarti che cos'era prima di vendertelo? Prima di vendertelo no, però prima del libro c'è una prefazione. C'è la prefazione, certo. Ma questa è come la storia delle statue. Io, uno dei miei migliori amici, una persona a cui voglio un bene dell'anima, con me non andrà mai d'accordo su niente, però guai a chi me lo tocca, che l'altro giorno stava dicendo: se buttate giù le statue degli schiavisti dovreste buttare giù le piramidi perché sono state costruite dagli schiavi. E io gli ho risposto: Nicola, ti voglio bene, ma il problema è che un conto è la piramide, è ok, ti capisco, ma noi ora non alzeremmo mai una statua dedicata a un faraone, proprio per quello, perché ha usato gli schiavi per costruirsi le piramidi. siccome le statue non più a che vedere, tra l'altro, sì, perché sono stati gli alieni e lo sappiamo tutti. Esatto. Per quello, quindi, torniamo un po' al discorso, scusa, che dicevo prima, cioè che devi contestualizzare l'opera al suo momento storico. Sì, ma ti ripeto, il problema diventa, se non lo fa la scuola, se non lo fanno le famiglie, tocca questa incombenza a chi quel prodotto te lo offre. In questo caso è toccato a HBO dire: ve lo facciamo vedere perché non lo censureremo, ma lo faremo precedere da qualcosa che vi aiuti a capire di che epoca è figlio e perché fa cose che noi ora consideriamo inaccettabili. Mi sto immaginando, scusa Carmine, mi sto immaginando Rocco Siffredi che prima di un video spiega i presupposti del sesso anale. Sai che molti porno americani prima spiegano le scene che vedete sono tra persone consenzienti, questa è una recita, eccetera eccetera, è per quel motivo. Sì, sì, cioè, credo, vabbè, non ridere, ma è per quello. Sì, sì, no, ma gli americani, insomma, se non gli dici che il caffè è bollente e poi ti ustioni, si ustiona, gli puoi chiedere i danni. L'America è basata su questo tipo, come dire, di linearità. Cioè, la stupidità in America non è semplicemente tollerata, ma è tutelata, è questo il problema. Esatto. No, guardate, questa discussione l'ho fatta prima che andasse di moda, come dicono gli hipster, perché c'è un periodo storico dei fumetti di Shazam, di Capitan Marvel, che la DC non ha mai ripubblicato, se non sporadicamente alcuni episodi, perché per un po' quel personaggio ha avuto come spalla un bambino di colore che era ritratto con tutti gli stereotipi razziali dell'epoca: la testa tonda calva, le labbra tinte di bianco, parlava in maniera approssimativa. Ora che hanno fatto un antologico in cui sono state pubblicate le storie anche di quegli anni, quelle storie le hanno pubblicate, ma c'è una prefazione che la spiega. E io non l'ho trovata una limitazione della libertà o prendere per cretino il lettore, l'ho trovato prendersi la responsabilità di pubblicare un prodotto spiegandolo, perché molto probabilmente devi calcolare che a chi arriverà tra le mani potrebbe non avere tutti gli strumenti per capirlo. Ed è facile. Però io mi aspetto anche una cosa del genere con i film di John Wayne o quelli western, sì, sì, no, dove l'indiano era stronzo che potevamo ria a prescindere. Ma allora... No, guarda che questa è una battaglia che i nativi americani sul fatto della contestualizzazione dei western fanno da parecchio, però sono molti di meno, non se li sono cacati più di tanto. Ma non mi stupirei se cominciassero a farlo anche sui film di Peckinpah. Scusa, intanto Pepe Rizzard ci dice che le piramidi le hanno costruite i Goa'uld, non so, dice le basi proprio, Goa'uld, dai, ho perso, non trovo il riferimento, quindi se qualcuno mi vuole Stargate. Ah, ok, giusto. Già. Vabbè, ragazzi, comunque in questo nostro divagare anche abbastanza importante, anche fin troppo serioso per il nostro format, siamo arrivati, sapete, alle 22:45. Per me possiamo anche andare avanti, però ho il dovere morale di dirvi che sarebbe ora di andare a dormire. Ma sì, va. Vediamo se c'è un'ultima ora. Abbiamo un'età, ragazzi. Vai. Quando Gualdi cerca le ultime ore, trova sempre delle perle. Io invece c'avevo YouTube aperto su un video di un tizio che finisce Dodonpachi con un gettone solo. Se non sapete che cosa è andato. Sì, sì, no, sta girando tutt'oggi. L'ho visto questo pomeriggio. No, mo' andare a recuperare pure io. Non l'ho visto. Sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Perché? Vabbè. Guardi, noi stiamo aspettando che tu trovi la nostra ultima ora. Continuare. Io sto leggendo. C'è Lanza in sciopero dalle 22, ragazzi. Quindi, motivo? Quindi non usciranno, non si sa. Non è uscita Lanza, purtroppo, non lo sapremo mai. Quindi, se non quando ricominceranno a trasmettere. Vediamo se c'è qualche cosa. Non... È morto Giulio Giorello, filosofo tra scienza e Topolino. Non sappiamo chi sia. Tanto per fare un coccodrillo al volo, che ne so. Jor-El è sicuramente di Krypton. Jor-El, sì, allora, è morto molto tempo fa. Jor-El. Ma vive nei nostri... L'unico tra i morti eccellenti del mondo della filosofia che conoscevo era Galeano, ma solo perché nel film di Boris lo cita Glauco per spiegare l'utopia. Ma... Ah. Ragazzi, ma l'avete filmata la petizione a livello assolutamente, come dire, celebrativo? Perché non sarà mai possibile che questo succeda, ma la petizione su change.org per avere la quarta stagione di Boris? Ah, io l'ho firmata, però... Anch'io. No, sai che cos'è? Che alla fine quello che ti devi chiedere è, prima, produrla costava 10, mo che comunque quella gente ha più o meno fatto quasi tutta carriera, quanto costa? Ma in realtà aspetta un attimo, perché secondo me molti di quei personaggi, molti di quegli attori erano più sulla cresta dell'onda all'epoca che oggi, e comunque sia di quel gruppo nessuno è un attore di primissimo piano, nel senso che Pannofino grazie a Boris si è sdoganato, però è chiaro che non ha proprio il physique du rôle, quindi insomma può fare soltanto determinati ruoli. E gli altri continuano a lavorare comunque in produzioni similari, tra l'altro su RaiPlay e poi adesso anche su Re3 è uscita anche Liberi Tutti, che è una serie che in qualche modo vuole celebrare Mattia Torre, che è stata poi prodotta dagli o meglio sceneggiata dagli stessi autori che componevano il gruppo originale di sceneggiatori di Boris insieme a lui, e che poi aveva presenti nel cast per esempio Caterina Guzzanti e, se non ricordo male, Giorgio Tirabassi, insomma, ed altre persone che intorno a Boris hanno gravitato tanto. Poi, per carità, io sono questa sottopetizione per fare lo spin-off su Sergio, tipo Better Call Saul. sarebbe carino. Sì. Tra l'altro sappiamo tutti che oggi probabilmente provassero a rifare Boris non funzionerebbe, sia per contesto storico, sia perché comunque è difficile ritornare e non essere, come dire, il clone di te stesso. Dovrebbero creare nuovi tormentoni, nuove storie, nuovi. E c'è da dire che c'è anche un problema che secondo me inficerebbe il funzionamento di una trama, è che ormai in Italia la televisione produce soltanto reality show di quarto ordine. Il ma tu set lo sai, di un Boris invece spostato su un set dietro le quinte di un'Isola dei Famosi. No, sarebbe so. Più bello e poi, vedere... con le riprese ci fanno la quarta stagione degli Occhi del Cuore, la quinta stagione degli Occhi del Cuore di nuovo, insomma, si inventano qualche altra cosa. No, ma sarebbe anche bello vedere quei personaggi che affrontano il passaggio dalla televisione allo streaming, perché poi alla fine la fruizione delle serie da quando è uscito Boris a oggi si è spostata completamente, nessuno guarda più la serie in TV, ma neanche quelle tipo Occhi del Cuore. Cioè, vedere Occhi del Cuore che diventa un prodotto per le piattaforme di streaming, che quindi deve essere girato tutti insieme, perché tutti gli episodi devono uscire insieme, e quindi non devono guardare l'Auditel. Beh, va bene, però quelli che sono le soap opera e similari difficilmente potranno mai seguire questo paradigma. Le girano praticamente in tempo reale. C'è un gap tra la messa in onda, tra le riprese e la messa in onda, che è meno di una settimana. Tant'è che basta qualche giorno di buco, di sceneggiatura, di lockdown, eccetera, che si interrompono tutte ste serie. Ma guardate, negli Stati Uniti una cosa che mi ha lasciato veramente di sale, io seguo molto lo spin-off di The Good Wife, che si chiama The Good Fight, che ha parte di quel cast che è in un altro contesto, e l'ultima stagione è durata solo 7 episodi, letteralmente tagliata a metà, perché il girato ce l'avevano, ma non potevano fare la post-produzione perché la gente stava chiusa dentro casa. Che poi è strano, perché la post-produzione ormai la fai in digitale, per cui la fai... Hanno dovuto fare un video in cui spiegavano, vedete, i file stanno qui, li deve scaricare lui, che ci impiega 8 ore, finché li adegua, finché li ricarica, insomma spiegava che diventava una questione di tempo. Hanno fatto questo video per giustificare il fatto che avrebbero fatto per un po' un episodio ogni 2 settimane. Poi e che il colorist si voleva portare il monitor da $100,000 a casa e gli hanno detto di no, e quella è la verità. Sì, ci ho pensato che potesse essere quello il problema, però vabbè, insomma, momento di ironia sull'ironia. E vabbè, ragazzi, comunque dai, io direi che veramente è arrivato il momento. Si è fatta una certa. Noi torneremo? Non lo so, io non ho idea di quello che succederà. La prossima settimana. Facciamo una cosa: noi ci salutiamo come venisse la fine del mondo. Poi, se per caso non viene, lunedì prossimo siamo qui. Vabbè, quindi è stato bello, ragazzi, incontrarvi. Quando è che finisce? Scusa, 20, 21? 21. Probabilmente anche dal fuso orario, secondo me. Quindi se vuoi salvarti, spostati un pochino di latitudine. Vogliamo essere ottimisti anche fino al 22, tra l'altro. Ecco, possiamo fare così. Solo che, ragazzi, scusate, a questo punto fatemi vedere il calendario, perché in realtà c'è questo problema: il 22 è lunedì prossimo. Per cui, se proprio fossimo fortunatissimi, proprio che poi lì l'audience esplode, la fine arriva durante la nostra prossima diretta, quindi potremmo anche con cognizione di causa risentirci un'ultima volta, ecco. Potrebbe essere l'ultima diretta in tutti i sensi. Esattamente, sai che botto l'Auditel, ragazzi, porca miseria. Sì, poi non ti ascolta più nessuno in podcast, però... E vabbè, è un rischio che dobbiamo... Mi permetto di dire che è un rischio che dobbiamo correre, dai. Vabbè, ragazzi, ecco. Allora, permettetemi di mettere un attimino di pepe a questo background qui. Perché siamo arrivati al momento dei saluti anche questa sera. Mi hanno fatto compagnia in questa cialtronissima serata di divagazione con 20 celli di guerra, il sodale, altro padrone di casa, comune ascoltatore, ma anche comune produttore, ma anche comune conduttore, ma anche uno che troppi non si sa troppi comuni, Marco Gualdi. Ciao. È stato bello conoscerci, è stato bello passare insieme questi anni. Addio. Dall'altra. Forse... Dillo. Chi può dirlo? Cioè, giusto. E dall'altra parte del tunnel spazio-temporale a cui si accede dalla finestra di Marco Gualdi, avevamo dalla Reggio, non diremo mai quale delle varie Reggio italiane, il nostro Francesco Lobby Frontali. Non diremo mai di quale delle cinque Reggio italiane, perché in questa dimensione ci sono cinque Reggio, quindi non dimentichiamo. È stato piuttosto neutrale stare con voi, grazie ragazzi di questa neutralità. Ed ultimo, ma non ultimo, dall'assolata Puglia, spero sia assolata perché non ho visto il meteo. Ecco, appunto. Il buon Carmine Puccio, console, perché abbiamo parlato di PS5. È stato bello, ragazzi, ci vediamo dall'altra parte. Detto questo, io saluto voi, saluto il multiverso di ascoltatori che anche oggi ci ha fatto compagnia: Giuseppe Pugliese, Peppe Rizzard, Leo Vargion, Morris che ci ha raggiunto pochi minuti fa, e Michela e quindi presumo anche Simone che lì in contumacia ci ascoltava, Pier G che ci ha ascoltato all'inizio, Stefano e tutti gli altri che in maniera pavida e vergognosa non ammetteranno mai, ma ci ascoltano tutti i lunedì. L'appuntamento. Ma sono giustificatissimi. L'appuntamento forse è alla prossima settimana. E quindi vi lasciamo tutti con un corale ciao. Ciao.